dal 2010 ad oggi, sotto diverse forme e con diversi nomi. Questo collettivo di persone e amici ha prodotto migliaia di ore di contenuti in podcast e in live, dalla passata esperienza di Italian Podcast Network per arrivare a Runtime Radio. Questa realtà ha superato i 2 milioni di download complessivi. Nei periodi di difficoltà abbiamo cercato di fare compagnia alle persone con la nostra presenza, le nostre idee e le nostre risate. Se sei qui ad ascoltare, sicuramente sei un affezionato ascoltatore e di certo avrai dato il tuo contributo. Ma non dimenticare mai che tutto questo si regge solo sulla passione di tutti noi della radio e che qualora ne avessi la possibilità e la voglia, anche tu puoi contribuire a sostenere economicamente Runtime tramite un versamento ricorrente su Patreon o un regalo una tantum tramite PayPal. Per sapere come fare, basta andare sul nostro sito www.runtimeradio.it e cliccare sul pulsante Anche io. Sostieni Runtime per un'ennesima nuova stagione di grandi contenuti. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Runtime Radio, benvenuti anche questa volta, ancora una volta in piedi e ancora una volta in voce qui con voi, Simone Pizzi. Questa è RuntimeRadio.it, sono passate le ore 21 e quindi inizia un'ennesima puntata live di Ludico Forum. Con me Marco Gualdi. Cioè, in piedi ci stai te, io sto seduto. Anch'io sto seduto. Allora, in piedi è metaforico, nel senso, nel modo di dire, stai in piedi, stai ancora dritto. Ecco, diciamo okay, così. Okay. Anche questa mattina siamo, siamo dritti sempre. Hai aperto gli occhi. Sempre dritti fino alla meta. Alla via così. Va bene. Ragazzi, puntatona, volevamo farla su YouTube ma poi non c'eravamo lo sbatti e quindi abbiamo pensato di farla in radio. Cioè, questa è la mentalità proprio che ci renderà ricchi. Esatto, e beh, d'altronde la mentalità dell'imprenditore si chiama. Scusa, dal 2010 non siamo diventati ricchi. C'è ragione. Quindi qualche motivo ci sarà naturalmente, e non l'abbiamo voluta fare ovviamente su YouTube, ma non fa niente, la potete ascoltare qui su runtimeradio.it, poi uscirà in podcast e poi ovviamente magari lo mettiamo anche sul canale di Dietrologia Videoludica, mettendo immagini, foto, cose, non lo sappiamo. Potete interagire con noi su Telegram andando su Dirette Runtime oppure sulla chat di Pixel Deb e magari Deborah gestirà, no, magari ci dirà: ah, guarda, c'è un messaggio anche dalla parte mia, insomma, e noi risponderemo. Ovviamente male, perché quello è quello che facciamo noi, è rispondere male. Con noi questa sera ovviamente c'è Pixel Deb. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera, sono tanto contenta di essere di nuovo qui su Runtime. Ma chi te lo fa fa, Deborah? Ma veramente, ad essere contenta soprattutto. No, è sempre un piacere. Comunque, Pixel Deb su YouTube, andate, iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like a tutti i video, condivideteli e insomma seguite il canale che è cresciuto nell'ultimo anno, ci ha avuto un bel boost, piano piano, insomma, la strada verso il successo è spianata. Grazie. Sei d'accordo? Sì, sei che è spianata. sì, proprio. Umberto Parisi. Buonasera a tutti, ragazzi. Umberto Parisi, i beceri videoludici, sia come Twitch che YouTube, come podcast, ma soprattutto Psycho Dev, che è ovviamente il suo marchio, diciamo, di sviluppo, con il quale sta sviluppando e ha sviluppato già diversi videogame che trovate su Steam. Dilli di Umbe, perché tu lo sai. Trovate su Steam, trovate la saga di Chronicle of Isma. Ok. Poi il secondo gioco. E poi gli altri devono arrivare. Deve arrivare, ok. Quindi arriverà il terzo capitolo. Il terzo capitolo, un gioco per NES probabilmente. Per NES addirittura, quindi siamo sarà un porting alla retro o una cosa nuova. Siamo alla retroprogrammazione, figo questo, dai. Poi ci terrai aggiornato ovviamente. Certo. Con noi, vincitore di una lunga battaglia contro la cistifellea, c'è anche Carmine Puccio Console. Ah, sul vincitore non mi... infatti, cioè, ottimismo. Che ne so, ieri sera eri in collegamento dal pronto soccorso, io mi preoccupo. No, ero direttamente in reparto, non ero in pronto soccorso. Ah, in reparto. E mi hanno portato direttamente. Ma io, sai... No, comunque, Sai, l'età, faccio questi sforzi che non dovrei fare poi. Sai che ultimamente, parlando con degli amici miei, abbiamo dedotto che siamo entrati in quella fascia d'età, che ovviamente non riguarda Deborah, perché insomma è ancora abbastanza giovane, dove la gente la incontri ai funerali. O all'ospedale. Madonna. Dio santo. Comunque prendi appunti, Deb, perché cioè, può sempre servire in futuro. Ma sai che dicevi, Umbe? Niente, mi sono mi sono massaggiato linguine le basse. Io sì, tocco ferro. Eseguito uno scaramantico gesto di attaccamento alla vita, come dicevo. Certo. E che comunque incontrare la gente ai funerali è sempre meglio che non incontrare la gente ai funerali, insomma. Okay. Cioè, comunque questo vi interrompo per distruggere immediatamente questa cattiva abitudine che stiamo prendendo ultimamente di fare programmi senza contenuti. Dato che questo programma ce l'ha dei contenuti, anche se anche sì, all'interno della chat pochi, cerchiamo esatto, di allungare i tempi. Esatto, anche all'interno della chat abbiamo contestato la qualità di questa puntata, ma insomma, d'altronde, dato che con Deborah abbiamo fatto recentemente sul suo canale i 10 migliori giochi a testa del 2023, ho pensato perché non facciamo anche quelli del 2024. Cioè non i migliori, cioè, ma quelli che noi ci aspettiamo, diciamo, come prossimi giochi, essendo più persone, invece di fare 10 a testa abbiamo fatte 4 più 1, e il più 1 si intende che se siamo ancora in tempi decenti poi magari tiriamo fuori anche. Ed è stata dura, devo dire che è stata dura, perché allora di giochi ne escono nel 2024, però tra quelli che non ti interessano e quelli che cioè per plizia, diciamo così, è stata dura. Però insomma, io aspettavo Assassin's Creed nuovo. Ah, ma quello esce ogni 6 mesi. Infatti, aspettavo il prossimo che è ambientato nella toilette di Parigi. Non lo so dove è ambientato. Oppure FIFA, che non esiste più poi. No, adesso si chiama Football Cazzo EA Football qualcosa. Sì, tra l'altro pare che ieri sia uscito un aggiornamento che l'ha devastato. Cioè, ho visto delle immagini tipo teste che si quanto già non fosse. Sì, teste che si girano. Ma può diventare sempre più divertente così. Infatti, sì, io lascerei crossover con l'esorcista. Esatto. Infatti, secondo me potrebbe essere più divertente l'esorcista. L'esorciccio. Allora ragazzi, niente, comunque domani vi ricordo, se, così come annuncio, che domani esce un nuovo episodio di Ho visto cose con Marco e Olivia. Ma davvero? Sì, esatto. Mamma. E che la puntata di ieri di Pop Corner, best puntata ever, è già disponibile in podcast, quindi andate a cercare su Spreaker, così come potete cercare Runtime Radio su Spreaker e troverete tutti i nostri podcast. Un incontenibile Mercedes, tra l'altro. Mercedes, sì, che ieri sera è stata spettacolare, ma c'è stata anche la Fiction, c'è la Fiction, ieri sera è successo di tutto. Va bene, allora ragazzi, io direi che, dato che parliamo dei 4 più 1 giochi che ci aspettiamo nel 2024, e dato che abbiamo una signovena, giusto? Abbiamo una signovena, sì. Ci sono. Io direi, cioè tipo, diamogli la patata bollente. Prendi la cardiaspirina, tizio. C'hai un trombo nel cervello. Prendi la cardiaspirina. No, vabbè, comunque, dai, nel senso, iniziamo da Deborah, tipo, smazzate subito sta cosa con il primo. Che poi, tra l'altro, io non è che l'ho messo in ordine di intensità di hype, insomma, diciamo, no, l'ho messo in ordine così, come ascolto l'elenco, questo come tu, come io ho fatto così, cioè, io ho letto la lista, sì, questo. Vabbè, scusate, torniamo seri. Deborah, iniziamo con il tuo primo. Allora, io l'ho messo proprio in ordine invece, ed è stato difficile perché la mia lista desideri di Steam in verità è piena di giochi che devono uscire. Quindi il vero problema è stato vedere quelli che forse usciranno nel 2024. Diciamo che quello è stato il problema, perché io sul canale mio faccio le uscite del mese, ogni primo, al massimo il 2 del mese, e io annuncio tutti i giochi che escono durante il mese, quelli più interessanti, insomma quelli che possono interessare a chi segue il canale. E poi va a finire che io l'ho annunciato, però poi viene rimandato lo stesso mese, quindi anche se c'è scritto che uscirà magari a febbraio, non è detto che poi esca, quindi diciamo, sì, dovrebbero uscire, questa però cosa. Potresti fare di consiglio la classifica dei giochi più rimandati dell'anno, cioè, esatto, si potrebbe fare anche quello, cioè, non dei più attesi ma dei più rimandati, cioè. Vabbè, comunque diciamo indicativamente sappiamo che dovrebbero, o ipotizziamo, o è stato indicato che escono nel 2024, poi esatto. Se prenderanno loro le proprie responsabilità, poi diciamo. Rimandano all'ultimo secondo, cosa che succede spesso, però diciamo dovrebbero uscire. E iniziamo con questo qui che in verità è già stato rimandato, quindi aiuto. Siamo bene. Vediamo se questa volta sarà la volta buona. Ossia Alone in the Dark, che dovrebbe uscire il 20 marzo. E io ho provato la demo, mi è piaciuta veramente molto, anche se è durata tanto poco. Quella della bambina. Ho un po' litigato perché mi aspettavo di giocare un po' di più. Ultimamente spesso le demo... che noi spesso proviamo in live sul canale, quando soprattutto c'è il festival delle demo di Steam, approfittiamo. A volte durano mezz'ora, un'ora, tu dici vabbè, sto fa il gioco praticamente. E quindi mi aspettavo, insomma, anche perché era di un po' di gigabyte, e quindi dicevo vabbè, figo, mo mi faccio sta demo. Durata pochissimo, 10 minuti neanche. Ma niente. Niente, cioè non sono riuscita a capire praticamente niente, però quel poco che ho fatto mi ha dato delle ottime sensazioni. Poi in verità nella demo si gioca con la bambina che si vede nel trailer, che ricordiamo Deborah, ricordiamo, cioè, la bambina sicuro, ma in Alone in the Dark è molto probabile, sì, ma anche in tutti il resto degli altri giochi muore sempre. La bambina, ma qualsiasi cosa, insomma. Comunque invece noi giocheremo come Edward Kernby, che poi è David Harbour di Stranger Things, e oppure si può utilizzare Emily Hartwood, ed è ambientato negli anni 20, dove lo zio di Emily è scomparso, e quindi lei ingaggia questo investigatore privato e vanno al Villa di Derceto, che è un ricovero per malati mentali, quindi insomma... un posto carino, e quindi succederanno varie cose. Ovviamente ci saranno non soltanto i momenti horror, ci saranno enigmi da dover riuscire a arrivare alla soluzione per poter andare avanti, e l'ambientazione comunque sembrava veramente bella, quindi io questo lo sto aspettando tantissimo. Non è doppiato in italiano, però almeno c'è il testo in italiano, che di questi tempi, insomma, come parliamo spesso anche su, vergogna, sul mio canale, è già qualcosa, certo. È un po' un miracolo, quindi posso fare una piccola polemica su questa cosa, prego, perché prego, secondo me il fatto del arrivo comunque delle intelligenze artificiali, dei doppiaggi domani. Dai tempo, dai, mo non cominciamo. No, nel senso che questa cosa qui, un po' i doppiatori, secondo me, se la stanno a giocare male, perché dovresti costare meno. Non dico che devi abbassare braghe, però cioè, tra prende qualche cosa e non prende niente, perché adesso stanno facendo abituare la gente a fare i giochi così, quindi sottotitoli in italiano. Oppure un quando, giorno va, bene, poi, quando va bene, oppure gli danno direttamente in pasto sta cosa, un doppiaggio fatto con l'IA, e i doppiatori se la prendono under secchio. Quindi secondo me dovrebbero loro farsi avanti. Se magari ci hanno ancora tanto lavoro. Magari quindi. Anche loro utilizzando le IA per le cose minori. Doppiare se stessi. No, per doppiare se stessi sarebbe fighissimo. No, per gli NPC, per le cose minori, e quindi per tagliare anche i costi. Vabbè, perché... comunque questo è un tema che affronteremo in una prossima puntata, perché già un po' ne avevamo parlato con Umberto di diverso tempo fa, ma magari rifaremo un recap anche su questa cosa qua. Anch'io ho giocato la demo, devo dire, sì, 5-10 minuti, ma secondo me è più una demo tecnica, cioè nel senso per far vedere la qualità tecnica del gioco piuttosto che capire che tipo di gioco è. E devo dire che da quel punto di vista l'impatto non è male. Per il resto, guardando un po' i trailer e le cose, ti la dà, insomma, diciamo, il ricordo al primissimo Alone in the Dark. E quindi è un nuovo reboot, è un reboot del reboot. No, questo è il reboot vero, però. Perché infatti i due personaggi sono gli stessi che stanno nel primo gioco, e Villa Derceto, che però lì in quel caso l'hanno trasformata in un mezzo manicomio, mentre che prima era solo una dimora, insomma, fondamentalmente. Però sì, soprattutto i personaggi sono un po' meno triangolari. Beh, grazie a Dio. Che poi, ragazzi, a noi all'epoca, quando è uscito Alone in the Dark, a noi faceva cagare sotto, cioè. E tu dici, ma come fa un fotorealismo, ragazzi? Quello per me era il top del realismo, insomma. Umberto, tu l'hai giocata la demo? La demo l'ho giocata, sì. Sono rimasto abbastanza deluso anch'io, a dire la verità. Ma anche un po' dal punto di vista tecnico, l'ho trovato un po' pretenzioso, non lo so. È come se volesse andare da qualche parte, ma poi non ci va. Cioè, la sensazione rispetto alla demo, oppure tu hai la sensazione che tecnicamente vorrebbe essere, ma forse non... hai capito, sai, quel fotorealismo che però non raggiungi mi ha dato, non lo so, mi ha fatto rimanere un po' male. Poi naturalmente non giudico, perché l'aveva giocato il gioco. Ma sì, però, sì, certo. Però sta demo a sto punto non la caccia proprio. Sì, è stata un po' strana come cosa. Secondo me era più per capire un po' le meccaniche. Comunque, terza persona, con la telecamera dietro le spalle, interazione classica. Diciamo che non è che hai aggiunto delle tecniche o delle meccaniche che dici, te le devo dimostrare perché sennò non capisci. Cioè, è uguale a tutti gli altri giochi. Però dai, comunque è sempre Alone in the Dark. Comunque un po' di emozione te la dà sempre, insomma. Vabbè, però io penso sempre che poi persone che hanno partecipato al primo Alone in the Dark, nessuna, quindi tutto sommato. Ah beh, sì, certo, anche perché molti saranno anche morti probabilmente. capito, sì, infatti sono di questa idea qui. No, un po' su quei, cioè, sai, ti rifà Monkey Island Ron Gilbert ti rifà Monkey Island, allora dici cazzo, sì. Fa schifo, però cazzo, l'ha fatto Ron Gilbert. Ah, schifo, non raggiunge l'aspettativa, perché poi è il problema l'aspettativa, secondo me. Anche sì, vabbè, certo. No, a me proprio artisticamente non mi piace, devo dire la verità. Da vedere è orribile, però non ha disegnato lui l'ha scritto. Lo so. Sommato. Puccio l'ha scelto, sicuramente l'ha scelto. Puccio Dell ha giocato la demo di Alone in the Dark? No, e non so neanche se giocherò il gioco completo. No! Perché gli fa paura. Non è da te, Puccio, dire. Sì. Cioè... No, non è che mi fa paura, eh. Non lo so, io in realtà non c'ho neanche questo legame profondissimo con quell'originale. Sì, ho giocato, mi è piaciuto. Non lo so, aspetto di vedere come evolve come prodotto. Se magari viene fuori qualcosa di mio interesse, ci penso quando lo mettono in saldo. Però non ce l'ho esattamente in cima alla lista delle priorità. Ok. Deborah, allora perché lo attendi particolarmente rispetto magari agli altri giochi che escono? Allora, lo attendo perché io ho portato sul canale, ho fatto uno speciale di Halloween insieme a Gab 2-3 anni fa ormai. Abbiamo giocato al primo, sì. E io non l'avevo mai giocato. Quindi è stato un modo per recuperarlo. Ed è stato divertente perché praticamente, ovviamente, mettendoci sempre nell'ottica di quando è uscito, io poi sono grande fan dei retro game, quindi parto dicendo questo, però è stato divertente perché ovviamente ha giocato Gab, perché io, uno, non ci so buona, seconda cosa, mi cago sotto a priori, e quindi dico no, giochite. E la cosa divertente è stata che lui, che è molto bravo in tutti i giochi, cioè ad esempio gioca tutti i vari Souls like e muore anche poco, quindi veramente molto bravo, quella sera ha fatto schifo. No, ma è ingiocabile. Perché praticamente lui si arrabbiava del fatto che il personaggio ovviamente si muoveva con una lentezza esagerata e con movimenti ultra scattosi, diciamo. E quindi mentre questo cercava di ammazzare questa sorta di dinosauro che entra all'inizio dalla finestra, si è messo in un angoletto e non riusciva più a muoversi da lì, e questo praticamente andava tipo fuori ritmo perché il dinosauro ti continuava a colpire e quello lì con la dovuta calma praticamente per dargli il colpo nel mentre veniva ricolpito e cascava a terra e si rialzava e non riusciva ad attaccarlo, e quindi Gab praticamente si è incazzato tutta la sera ed è stato molto divertente. Quindi non siete mai usciti dalla soffitta? Cioè praticamente non siete usciti dalla soffitta, questa mi stai dicendo? No, allora all'inizio una buona mezz'ora sì, cioè una buona mezz'ora è stato lui che era incazzato con questo sorta di dinosauro sempre. Poi quando è riuscito miracolosamente a sconfiggere quello, abbiamo fatto un po' di giri, abbiamo risolto qualche enigma, poi sai, eravamo comunque in live, quindi c'era chi l'aveva giocato che ci dava anche dei consigli, no? Però c'è da dire che Gab mi ha detto no, vabbè, sì, cioè, come fa, cioè non lo finiremo assolutamente. No, vabbè, allora io devo dire la verità, era ingiocabile anche allora, cioè nel senso... Sì, ha sempre fatto cagare. Dai, su, terribile. Poi vabbè, lui c'è il fatto che tu devi far ruotare l'omino, ma poi a parte che l'unica soluzione per superare determinate cose è sapere come le devi superare, ad esempio... Lì nella soffitta tu devi mettere l'armadio davanti alla finestra e il mostro non sarebbe mai entrato, capito? Quindi cioè, c'erano tutti questi trucchetti che alla fine li imparavi giocando, poi ovviamente. Se noi giochiamo invece con la logica di oggi, che comunque il nemico lo devi affrontare, è chiaro che Alone in the Dark diventa ancora più ingiocabile di quanto non lo era, perché cioè già de suo era ingiocabile. Raga, io non penso di non essere arrivato neanche a metà, Gualdi, tu ci hai mai giocato? No, quello vecchio no, ho giocato al secondo reboot, no, al primo reboot, quello dove era ambientato sull'isola, mi sembra, che erano due CD con... Ah sì, Seppe quello Carnby. Su PlayStation... Quello che era praticamente Resident Evil. Esatto. Sì, bravo. Che sì. Però mi ha fatto cagare da sotto in molti paesi. Sì. Perché no, era veramente male, stronzo. E c'aveva anche due o tre enigmi figli di puttana proprio grandi. Però c'aveva un grosso problema. Innanzitutto perché insultare gli enigmi non ti hanno fatto che niente. Veramente stronzo. C'aveva un grosso problema. Il primo CD, perché erano due CD. Il primo CD era figo. Uh-huh. E il secondo CD una cacca totale. Vabbè, perché quello erano finiti i soldi. Il primo tempo era bello, il secondo tempo. Esatto, erano finiti i soldi. C'era il problema che hanno molti film americani, cioè bella, bella tutto quanto, bella la cassapanca, bella l'esposizione, ma al finale era meglio. Se te lo mangi è meglio. Vabbè, e invece Umberto, tu ci te lo ricordi il primo Alone in the Dark? Vabbè, tu penso che te lo sei anche recuperato poi, no? Sì, no, lo giocai anche all'epoca a casa di un amico perché non avevo il PC. A parte lo adoravo perché era Lovecraftiano, l'atmosfera all'epoca sembrava bestiale, però il gioco terribile. Ma perché? Ma perché? Ma poi era iperesaltato perché era il primo gioco 3D di quel tipo, no? In realtà ha aperto un'epoca poi fondamentalmente. Certo, no? È un capo stipite assolutamente, alziamo le mani. Da lì in poi i Resident Evil, no? È venuto un po' tutto dopo, no? Alla fine però era veramente assolutamente ingiocabile e soprattutto io avevo un 486, quindi pure un bel computer. E nonostante questo aumentava un po' la fluidità dell'animazione, lui era lento. Io quando moriva ero contento, tutto sommato. Ah. Tu meriti. Vaffanculo. Però moriva piano il problema. Pure nella morte, nell'altezza. Però c'era questa scena che se lo trascinavano sotto nel tunnel. Che era. Cioè, c'era pure questa impronta cinematografica. Cioè, era figo, capito? Cioè, a me devo dire che il fascino all'inizio era incredibile, però il gioco era terribile. Cioè, proprio... Ma certo, ma poi aveva pure, voglio dire, i tagli di camera da film horror, no? Che non è che se ne vedessero tantissimi. Sì, sì, ma soprattutto all'inizio, quando tu arrivi, che c'è la finestra, inquadrò la finestra con la mano mostruosa, no? Cioè, devo dire, sì, dai, comunque, tanta roba. E che tra l'altro quella parte dell'intro c'è anche nel trailer. Quindi alla fine comunque questo gioco si ispira molto anche come colori, come stile al nuovo. In effetti l'avrei scelto anch'io se non avessi scelto Debola, perché pur non essendo un iper fan né degli horror né di Alone in the Dark, questo mi attira, insomma. Va bene. Puccio, tu invece ci hai giocato al primo, quello originale? Oddio, non ricordo su che piattaforma ci ho giocato. PC, su PC penso. Potrebbe essere stato su una PlayStation. Ma c'era su PlayStation? Credo. Ma mi pare il secondo, forse, mi pare che su PlayStation. Allora sarà stato sul mio PC. Al primo ci ho giocato e ho questo ricordo del fatto di avere l'ambientazione lovecraftiana, che a me piace tantissimo, completamente spappolata da un gioco che era non legnoso ma di più. È terribile, sì. No, quindi quando perdi, che ti devo dire, il flow, quindi quando non riesci a mantenere il controllo sul personaggio, non so, poi mi collega tutto, persino l'amore per i miti di Cthulhu, no? Non l'ho retto più di tanto, vi dico la verità. Ok, dai, andiamo al primo gioco di Marco. Marco, ma ci hai messo gli orari accanto ai Nitric? No, sono le date di uscita. Ah, però di che cazzo ordi sta cosa? Vabbè, ok. Sono le date di uscita perché non posso. Allora metti la sbarra, no? Il punto. Cioè, fatti i cazzi tuoi, io li metto come mi pare, capito? Va bene, dai, il primo gioco il di primo Marco. Primo che ho messo non in ordine di piacenza, ma in ordine di trovata. Esatto. Ho trovata qui, ok, perfetto. Esatto. Senua's Saga, Hellblade 2, apparentemente la seconda parte del gioco dei Ninja Theory. Senua's che è sarda. Senua's. Questo è. Oh. Allora, io ho giocato il primo. Allora, apparentemente tutti questi giochi, tranne uno che vedremo dopo, li ho giocati tutti i numeri uno. Questi qui sono quasi tutti dei seguiti o comunque delle nuove. Ma possiamo dire che Hellblade 1 non... A parte il discorso tecnico, non era sto gran non gioco. Era, no, dal punto di vista del gioco non era granché, ma dal punto di vista in cui era ambientato, la pazzia, sì, comunque sì. La schizofrenia, la tipa, le voci, e anche la performance, sonoro. La performance di lei, l'audio, cazzo, il design audio, sì, quello sì, era, infatti quello non l'hanno doppiato, ma solo per questo, non perché era difficile da doppiare un gioco era del molto genere, difficile insomma. Da doppiare, infatti sono curioso di vedere poi come lo hanno implementato, perché se nel primo c'è sempre questa cosa che tu sai che lei è matta, però questi mostri che combatte non sai mai se sono delle persone che lei vede dei mostri o se semplicemente sta agitando un bastone in aria pensando di ammazzare i mostri. Questa cosa non si capisce molto. L'ho sempre pensato pure io, sì. Siccome che ho dai trailer che ho visto, dai gameplay che ho visto, qui sembra che ci sia un po' più di coralità, quindi ci sono più personaggi, coralità. Ah, no, pure te vuoi la cardia aspirina, se la prende. Se fa sempre bene. Quindi ci sono più personaggi, voglio capire come l'hanno un po' buttata nel mondo, sì. Insomma, quindi sembra un gioco più completo da un certo punto di vista, ma soprattutto io l'attendo perché questo è veramente il banco di prova della Real Engine 5, cioè nel senso qui siamo arrivati a un livello tecnico veramente impressionante, ma soprattutto la parte della performance dell'attrice secondo me qui è proprio all'ennesimo livello. E tra l'altro l'hanno bestemmiato, lo sai, perché dice perché dura poco, perché c'è prezzo budget, ce l'hanno bestemmiato, lo so, questo io lo posso capire. Però pure il primo non è che durava tanto. No, però diciamo che secondo me questa è veramente la demo tecnica della Real Engine. Cioè, secondo me c'è più Epic dietro che il Ninja Theory, insomma. Quindi. Vai avanti, Xbox. Tu che dici? Quindi te lo. Questo allora c'è sempre. Però te lo devi giocare in clouding. C'è una congiunzione astrale che ci deve essere. Sì. Una che deve essere praticamente. Ci deve i settaggi a 640 per 480. No, deve essere rilasciato su Game Pass. Sì. E deve essere il Game Pass che viene accettato nella condivisione nel cloud di GeForce Now, e allora lì ci posso giocare. Quindi ci deve essere tutta la congiunzione astrale. Tutto quello che dico deve essere in congiunzione astrale, sennò sono. Vabbè, se esce sul pass, prendi l'abbonamento Ultimate e te lo giochi col cloud di Xbox. Ma mi fa un po' cagare il cloud di Xbox. Vabbè, bisogna pure sapere se è contentata la vita. A livello qualitativo fa un po' cagare, non lo so. Però è una cosa che se esce, oppure me lo gioco più avanti, se esce in versione un po' più, diciamo, abbordabile economicamente, me lo compro e vaffanculo. Cioè, lo gioco sempre GFN, ma su Steam sicuramente ce lo butteranno. E poi niente, insomma, quindi c'è questa curiosità di capire come l'hanno implementata la follia di Senua. Sono abbastanza curioso. La prima, tutto sommato, mi è piaciuto. Cioè, sì, a parte il gioco che è un gioco semplice, tranquillo. Sì, un gioco ripetitivo e semplice, un gioco sviluppato da meno di 20 persone, tra l'altro. Quindi alla fine c'è sta. Questo un po' più di persone ci stanno. Vediamo ad averci. Disse Umberto, giustamente, che tra l'altro mandate curriculum a Umberto. Ma soprattutto anche i tuoi giochi sono sviluppati da meno di 20 persone. Quindi ci sta, e stiamo lì, dai. Beh, tecnicamente è così, insomma, c'è ragione. Vi pago in amore. In amore, vabbè, l'amore è sempre, aiuta sempre ben accetto. Deborah, tu lo giocherai? Ti interessa? Allora, io ho giocato il primo con Gab su Xbox, perché pure quello, se non sbaglio, l'avevano messo sul Game Pass. Comunque il secondo uscirà su Game Pass. Sì, sì. E c'è da dire che la cosa che mi aveva colpito, il motivo per cui volevo giocarlo, stranamente, io che di solito la grafica per me è più che secondaria, è stata proprio la grafica, perché era spettacolare. Tu quindi lo sai. Effettivamente sia io che il mio ragazzo siamo rimasti affascinati dalla qualità grafica di quel gioco. Il problema è quello che ha detto Simone, che è solo quello, a mio avviso. Ma tu le sai le gambole? Perché c'è una ripetitività snervante, quasi. Quando dovevi andare in giro con lei avanti e indietro a trovare il simbolino a mezzo ai fratti, agli alberi, cose, oddio. Oddio mio. Guarda, io una palla. Io ma sì, no, ma il primo non era neanche come gioco, io dicevo no, basta, ti prego, ma poi devi farlo tante volte, lei dice vabbè, lo faccio una volta, lo faccio due. No, cioè sta cosa che dovevi trovare l'angolazione giusta in mamma cui i due rametti di quegli alberi insieme al monte vabbè, dietro facevano il simbolino più, no, è matta a fare cose matte, mi sembra sì, giusto. No, però è vero, cioè nel senso era insopportabile. No. Cioè, io mi ricordo che prima, a parte prima di capire il meccanismo nel primo enigma addirittura, poi dopo piano piano dopo capisci, insomma, però nel primo enigma c'era il bestemmia. Non come li ricordo più, perché le cose brutte le rimuovo. Ma tu rimuovi tutto, pure quelle cose belle. Belle. Chi era che allora il Ninja Theory era ovviamente gli sviluppatori. Chi è che lo pubblicò? Guarda che era sempre Microsoft comunque. Sempre Microsoft? Sì. Perché praticamente mi ricordo questa cosa, la gabbola, che praticamente ci sono molti filmati in quel gioco, ma proprio filmati, cioè live action, e per farlo vedere al tizio grosso della Microsoft, per fargli vedere il gioco che stavano sviluppando, gli fecero vedere una cutscene che però in realtà era recitata dagli attori, e lui disse: ma bella grafica, mi piace, continuate no. così. Sì sì, no no, ma questa sarà la leggenda metropolitana. Sono scemi quelli, no. Purtroppo non è una leggenda, cioè l'hanno detto anche loro. Era un full motion video praticamente sì, però siccome che era manipolato, che se tu ti ricordi bene c'era comunque c'erano delle manipolazioni anche sui video con gli attori veri, c'erano delle manipolazioni un po', quindi non poteva ingannare, e questo gli hanno detto: guarda, questo stiamo sviluppando così, questo ammazza, è bello, cioè c'è cascato in pieno. Vabbè, comunque il gioco tecnicamente era interessante, molto di tutto. Tu invece, Umberto, Hellblade 2 Ma guarda, penso di sì, fondamentalmente il primo mi è piaciuto, e tra l'altro me lo sto rigiocando in VR in questi giorni. Ah, in VR? Come si gioca in VR un gioco in terza persona? Sempre in terza persona? No, lo vedi di testa. Quindi ti puoi guardare tette volendo? Abbassi la sguardo? Sì. Ma guarda che è incredibile, io penso che spenderei 400 euro di casco solo per guardare le tette. Ognuno ha le sue priorità. Tu non è che spendi 400 euro per fare, tu ce l'hai già, spese 400 euro, c'è sto gioco. Dato che ce l'ho, lo spese. Mi dirò di più, perché l'avevo giocato su Game Pass, però l'altro giorno l'ho comprata a 2,49 euro, tutte e due le versioni su Steam, sia quella che la versione VR, che sono due giochi separati. E com'è in VR? Interessante sta cosa. Si appiattiscono un po' alcune cose, la grafica non è più così potente, però effettivamente alcuni scenari sono quasi mozzafiato. A livello audio? A livello audio fa paura. Lì è tutto lì. Il caschetto fa paura, perché immagino, ti gira attorno proprio le voci di gira attorno. Ti gira attorno, sì, ti parlano a destra, a sinistra, dietro, avanti, no, è carino. Sì, ma il gioco era tutto quello, insomma, certo. L'atmosfera, ve lo consiglio un VR, cioè una bella esperienza. No, ma non ce l'abbiamo il VR, perché altrimenti e questa accende andrei in giro a vomitare. Esatto. Ah, che belle dette, che belle dette. Basta, Marco, basta. Va bene, hai fatto la battuta, mo basta. Ma è così. E invece Puccio, tu il Blade 2? Ci ho giocato al primo, ma per motivi di audio, stranamente, che non è proprio il mio forte, però mi ricordo che mi avevano spiegato sta cosa, che le cuffie che avevo io all'epoca e che poi mio figlio mi ha gentilmente annientato contro uno spigolo, supportavano l'audio binaurale. Io non sapevo nemmeno cosa fosse, sono andato a vederlo su un video di YouTube in cui spiegavano come era stato implementato nel gioco. La cosa mi aveva colpito, il gioco stava a prezzo budget, ci ho giocato. Mi ha fatto impazzire, perché in effetti fai tipo 6 azioni in croce a ripetizione, come stavate dicendo voi, però questo fatto che ti trasmetteva messaggi discordanti tra un orecchio all'altro e che serviva a potenziare la sensazione che tu stessi controllando una persona mentalmente molto disturbata, quello mi è piaciuto molto. Ma mi è venuto il desiderio di provarlo in VR, visto che io il caschetto ce l'ho con l'Oculus 2. È calmo. Abbiamo creato, sono dei mostri. Comunque, lo faccio. Comunque sì, io farei notare la qualità subtelefonica dell'audio di Puccio. Quella è binaurale. Esatto. Orale anche quella. E vabbè, comunque compratevelo un microfono ogni tanto. Insomma, guarda, te lo compro io. Sono arrivati i soldi di YouTube, te lo compro io. Quindi. Ah, c'ho quello integrato alla cuffia che su Teams mi dicono: fa schifo. Puccio, te si sente di merda. Te lo dico proprio con tutto l'amore che io posso avere verso di te. Tu lo sai. Io il tuo giudizio sull'audio per me è Vangelo. È Vangelo. Io non ne capisco nulla. Infatti Vangelo. Ah, allora andiamo a Umberto, il suo primo gioco. Allora, io l'ho spostato perché non voglio correre il rischio di non parlarne, perché quando ho visto questo gioco ho pensato a te. Ok? Perché a me, Simone. A te Simone, abbiamo tutti e due una passione comune, no? Che è quella dei vecchi full motion video e cose del genere. Assolutamente, no? Sì. E quando io ho visto questo gioco mi ha fatto, cioè, adesso vi mando il trailer sul cioè che l'avevo preparato, ecco qui, questo gioco mi ha fatto, pensavo che fosse un filmato, è la cosa più realistica che io abbia mai visto. Ah cazzo, sì, l'ho visto, sì. Io non so il gioco come mi fa cagare, ma i giochi dove si spara così mi fanno cagare, ma solo per la grafica questo lo compro. Ah, quello con la Spy Gun lì? Sì. Ah, ho capito. Sì, ma fa paura. Però ma un record. Mi ha fatto, sembrava un video. Cioè, quando io l'ho messo, ho detto, vabbè, ma questo è un video, quando si vede il gioco? Cioè, non so se avete avuto modo di... Allora, io devo dire che questo gioco ci ha avuto diverse polemiche, perché chiaramente molti hanno contestato la qualità tecnica grafica di questo gioco, che invece poi è stato dimostrato che è tutto vero, in quanto hanno fatto vedere ovviamente l'engine in lavorazione. Vabbè ragazzi, questo è Unreal Engine 5, io quello che continuo a dire da un sacco di tempo, utilizzando ovviamente degli asset di altissimo livello, che è la cosa che poi farà soffrire i computer, perché questo è ovviamente, questo è quello che esce fuori. Ed è veramente, allora, neanche a me piacciono i sparatutto, soprattutto in prima persona, ci ho giocato quando ero più giovane, mi divertivo e via dicendo. Oggi non lo so, però cazzo, questa è una cosa da vedere, cioè devo dire... Cioè, quantomeno un fatto tecnico, anche detto, anche se il gioco fa cagare, comunque quando, cioè, sai, è difficile oggi dire wow, e io con questo ho detto wow, cioè nel senso che... Guarda, c'è il punto dove si vede il furgone, che lì si vede che non è... Cioè, poi se lo vedi ci fai caso, esatto, no? Sì, però, cioè, lo vedi che è finto, però Cristo santo, cioè il primo impatto è la prima volta che io scambio un gioco per una cosa reale, cioè non è mai successo. Sì, più che altro le primissime sequenze quando entra dentro l'edificio, sì, lì fa veramente paura, sì. Lì sembra proprio che poi questa immagine distorta da action cam, che anche sì, è un po' una paraculata, però serve. Eh sì, però aiuta, ragazzi, aiuta. L'immersività se va così, cioè comunque con degli ingegni tecnici, questo Puccio lo compra sicuro, vero Puccio? Tu con la, sto già sparando. Tu con la, no, in realtà no. Con la tua 50-90. Magari c'ho una Volcano 30-70 standard. Vabbè, però tu che hai messo nel tuo testamento a mio favore, giustamente, no? Ovviamente sì, perché quando mi opereranno per la giustizia, esatto, ho fatto testamento a vostro favore. Io pensavo che si facesse trapiantare direttamente la scheda al posto della giustifella, invece no, vedi, là. No, ho chiesto, ma non si può fare. Detto, per quella devi aspettare la versione successiva 50-90. No, io devo dire che il trailer effettivamente l'avevo visto io come Umberto, cioè, ho avuto questa sensazione, madonna che presa per il culo, probabilmente, cioè pensavo pure io fosse una roba girata in, che ne so, con una GoPro e poi modificata, editata al computer, però più leggo insomma chi se l'ha analizzato tecnicamente, più sembra una cosa estremamente possibile. Non ho idea. No, beh, Puccio, ci sono i video con la Real Engine aperto, cioè nel senso, si vede il gioco. No, ma l'hanno fatto vedere. Ma il problema è che questo gioco non è tecnicamente eccezionale, e che ci sono vari accorgimenti che lo fanno sembrare reale. Sì, sì. Che lo fanno sembrare fotorealistico. Fotorealistico. Soprattutto nella sequenza iniziale, quando vi dicevo, no? Che ci sono, lui cambia posizione di sguardo, magari inquadra più il cielo che l'edificio, che c'è l'abbassamento della luminosità dovuta ovviamente dal cambio di esposizione, no? della camera, che sembrano stronzate, ma quello ti inganna ancora di più, perché è talmente realistico l'effetto ottico che alla fine sembra una cosa incredibile. Comunque sì, hai fatto bene a citarlo sto gioco, perché insomma, vabbè, poi magari il gioco sarà, ma probabilmente sì, un gioco chiavica di un'ora prima. Spara qui, spara lì, due palle. Non spara tutto in prima persona, cioè non sembra manco niente di... Sì, sì, anche perché poi non è che si vedono grandi sequenze o chissà che cosa. Comunque, va bene. Pure, cioè, la varietà degli ambienti è quella che è pure, cioè... La cazzo di fabbrica abbandonata, grigia. Cioè, è tutto il resto che viene dopo, che... A Deborah non lo so, ti interessa, immagino no, no? Cioè, nel senso... Sì, a me sì, a me piacciono un sacco i sparatutto in prima persona, quindi a voglia. E ah già, tu sei quella che fa il cecchino. Io adoro anche il full motion video, esatto. Mentre Gabriel li odia, esatto. E quindi lui mi fa: guarda sto trailer. E io ho detto: a me sta a far vedere un full motion video tu? Io già ho detto: ma che è davvero? Dice: non è full motion video, è vero, grafica. È vero, sì. Io così: no, è un full motion video. No, fidati. No, non è vero. Cioè, ho iniziato a fare, sai, un po' attaccare il pippone. No, non è vero, full motion video, questa è una telecamera, e invece no. Allora io sono rimasta abbastanza scioccata. Sì, no, assolutamente. E poi tu sei quella che fa il cecchino, no? Giusto? Qual è il gioco che giochi di solito? Io a Counter-Strike, ok, appunto. Fa la campionessa. No, il cecchino, però no, il cecchino mi annoia. No, lei si è buttata nella mischia. Sì, io vado con la carabina Maverick. sparatemi. Ti porterò con me all'inferno. Okay. Bombe. Infatti lei va con la cintura quella esplosiva, se butta una mischia morirete tutti con me, maledetti. Sì, sì, calcola a Far Cry ad esempio, vado proprio col pompone in mezzo alla mischia, no, cioè più no. divertente. Comunque vabbè, e tu guardi invece? Allora, non mi piacciono molto i giochi in prima persona. Ma come mai? Una volta li giocavi? No, li gioco, però ci devono avere un minimo di trama. Questo qui la trama non c'è. C'è stata la trama. Vabbè, a parte che non sappiamo molto ancora. Esatto. Poi dipende, insomma. Cioè, se dovesse avere. E poi sembra hardware, uno che sta a fa soft air, tutto se sommato. Se dovesse avere un hardware, probabilmente anche in questo come demo, magari me la scaricherei, me lo proverei. Non so se esista. Però non credo. Però se ti devo dire adesso ti prenderesti un gioco, ti prenderesti questo gioco, dico no, cioè non mi dà tutta ad oggi tutta questa attrattiva. Tra l'altro è da annunciare ancora la data d'uscita. TBA. Esatto. TBA 24 dicono, o TBA di più? Dicono 2024. Sì, sì, ma io me l'aspetto per il 2024, maledetti. Va bene, no, tra l'altro io con Real Engine, sapete, oramai sono 7 mesi che ci sto lavorando allegremente, solo che purtroppo il mio computer, devo dire la verità, a volte sei aspettato la morte di Puccio, mi fa passare la voglia. Si sta aspettando Puccio, si aspetta Puccio che muore, sì. E ha già telefonato al chirurgo. No, io pregherò sempre perché tu sopravviva 100 anni, ma qualora non dovesse, insomma. Anche perché magari le cambi la scheda, sai com'è, comunque in ogni caso. Fai l'upgrade. Non si sa mai. Allora, il mio gioco, ragazzi, il primo non può assolutamente che essere lui. Tra l'altro annunciato tantissimo tempo fa, poi se n'era... era sparito, diciamo, dalla circolazione, tant'è che ogni tanto anche nel gruppo di Deb ogni tanto, ogni 3-4 mesi dicevo, ma non c'era il gioco di Indiana Jones da qualche parte? E finalmente ce l'hanno fatto vedere sto gioco, ce l'hanno fatto vedere Indiana Jones e l'antico circolo, l'antico cerchio, antico circo anche. Circo anche, sì, che tra l'altro ha subito scatenato ovviamente tutta la parte tossica dei religiosi. Cioè, perché lui non assomiglia a Harrison Ford, no, perché non c'ha il doppiatore. Allora, lo prende, devo dire lo prende, rispetto a tantissimi altri giochi di Indiana Jones, quelli che LucasArts faceva in 3D, che per me facevano tutti cagare, scuse le avventure grafiche, i giochi facevano tutti cagare, questo è quello che secondo me lo prende di più, in particolare in alcune scene, in alcune sequenze. Il fatto è che i visi sono... tra il realistico e il fumettistico, cioè non riesco ad agganciare bene lo stile con il quale sono fatti i personaggi. Ciò nonostante, forse la cosa che un po', diciamo, uno si deve abituare di più è il discorso della voce, chiaramente. La voce no. Però lo accetti, cioè nel senso, di fronte a un doppiatore che c'ha 97.000 anni, poi se... veniva l'effetto Darth Vader, te lo ricordi, Gualdi, quando siamo andati a vedere che film era, che c'era Darth Vader che in teoria era più giovane, ma c'aveva la voce con la dentiera, era Rogue One. Vabbè, comunque sì, e insomma, queste sono cose che fanno male al cuore, no? Da un certo punto di vista, però in realtà devo dire che ascoltandolo alla fine ti abitui. Forse una voce un po' più profonda sarebbe stata gradita, diciamo così, però ci sta. E le polemiche sono state anche sul fatto che il gioco è in prima persona, cosa che invece io devo dire che proprio per non andare a scimmiottare Lara Croft e Uncharted e insomma annessi e connessi, secondo me tutto sommato ci può stare la prima persona, e che diventa terza persona quando ci sono determinate sequenze, magari alcuni enigmi, le arrampicate e via dicendo. Gli dà quello stile un po' Wolfenstein, ovviamente, perché i vari sviluppatori sono gli stessi, che non fa male. Ci sono alcune sequenze secondo me che sono emozionanti, tipo il salto dall'ala a un'altra ala di un altro aereo, che è figo, dai, cioè è molto indianaggiato. A me devo dire che secondo me lo spirito lo prende tutto. Si dice che tu puoi anche sparare, però diciamo che questa cosa, forse questa meccanica non è stata super sofisticata, diciamo, proprio per non fare l'effetto Uncharted, cioè che ricordiamo che Uncharted da Nathan Drake è ricercato per crimini di guerra e sterminio, perché insomma, cioè, cioè questo ammazzava in diversi paesi del mondo, esatto, ammazzava 500-600 cristiani ogni gioco, cioè alla fine è, però è tutto a posto, è legittima difesa, è tutto a posto, legittima difesa. E invece, cioè, Indiana Jones è, cioè, Indiana Jones è difficile che uccideva veramente qualcuno, no? Beh, cioè doveva, insomma, essere, cioè no, succedeva, però doveva essere proprio, a volte sai, un uomo che, quando un uomo con la spada incontra l'uomo con la pistola, l'uomo con la spada non è morto, però Io lo so, vabbè, perché tra l'altro quella è una scena fissima, però ecco, lui per esempio acchiappa i tizi con la frusta, li prende a cazzotti, ci sono queste sequenze, ci sono gli enigmi ovviamente su quelle che sono ovviamente le ambientazioni archeologiche, e devo dire che secondo me questo gioco promette tanto. Da quello, dal terrore che avevo quando è stato annunciato e non aver visto niente per tanto tempo, quando poi alla fine è uscito il primo trailer, devo dire che sono molto contento anche del fatto che sia stato doppiato in italiano, che come diciamo sempre pure con Deborah nel gruppo, non è una cosa poi così scontata, insomma, cioè. No, è un valore aggiunto sicuramente. Quindi chi ne parla, anche chi ne vuole parlare? Umberto l'aveva messo nella... Già, l'aveva messo Umberto anche, sì. L'avevo messo pure io, vabbè, io credo che sia finalmente arrivato il momento che Indiana Jones facesse un gioco sulla scia di tutti quelli che hanno preso da lui, no? È assurda sta cosa, sai che ci ho sempre pensato? Cioè era incredibile il fatto che Indiana Jones, che ha ispirato dei giochi che sono diventati dei capolavori, e lui non c'aveva un gioco all'altezza, perché poi questo è, secondo me, poi dico, escludendo le avventure grafiche, chiaramente, che sono action, che è un altro discorso, no? Però cioè, finalmente un gioco degno di Indiana Jones, hai ragione. Bisogna sempre vedere, stiamo speculando, quello senza meno, certo. Stiamo speculando, poi insomma vorrei sapere dov'è che non somiglia ad Harrison Ford, perché mi sembra che sembra che assomiglia, infatti, sì. Mi sembra queste polemiche del cazzo, proprio da schiaffoni, comunque. Guarda, cioè nella scena iniziale, quando dalla capoccia dal tizio, io lì lo vedo tantissimo. In alcune altre cose, lo so che il personaggio è lo stesso, quindi è sempre, però in alcune espressioni lo vedo di meno, diciamo, però lo stavo guardando ora mentre lo dicevi, perché io non l'avevo sentita sta polemica, lo stavo guardando, il sorrisino è quello, la sì. Forse leggermente più tonda la faccia sì. No, io devo dire, raga, lo stile, cioè io ci ho visto Indiana Jones qua dentro, che per dirlo io, che per me è mia sorella, è mia madre Indiana Jones, quindi chi la tocca, cioè nel senso che alla fine sai, sono quelle cose che quando tu cominci a guardare, ah no, quello no, ah ma quello fa schifo, ah ma quello, e invece devo dire che hype, tanto hype, e poi vediamo. Deborah, tu che ne dici? Allora io dico che lo giocherò sicuramente, perché lo metteranno su Game Pass anche questo, e quindi dai. E io sono grande fan di Indiana Jones, una delle mie avventure grafiche preferite è proprio quella di Indiana Jones, non The Fate of Atlantis, ma il terzo film, The Last Crusade, anche se non bella anche d'accordo. The Fate of Atlantis. Non sono d'accordo. Lo so, il 99% delle persone preferiscono l'altra, io faccio parte dell'1% che preferisce The Last Crusade. Però anche The Fate of Atlantis è bella, non è che dico di no. Sono belli tutti e due. C'è da dire che il trailer sembra divertente, il gioco bello movimentato, un bel gioco action, quindi ci sta. L'unica cosa è che, se proprio voglio trovare, sai, il pelo per rompere scatole, non è che non ci assomigliano i personaggi, secondo me sono tutti un po' storti. Non lo so, hanno il viso strani, un po' tutti tendenti al Harrison Ford c'ha la faccia storta comunque. No, però sono strani. Al di fuori di Harrison Ford, sono strani. Che è carino che gli hanno fatto il naso storto, l'ho visto quella cosa, è vero. Ma un po' tutti loro mi sembrano un po' storti. Sono strani, non so, strani. Non mi ha convinto sta cosa. Io... Però per il resto anche sti cavoli, cioè va benissimo così. Io devo dire che sono strani, cioè li trovo che ci sia uno stile, forse, che magari dobbiamo abituarci, perché probabilmente, proprio per non dargli l'iperrealismo, l'hanno un po', non macchiettizzati, non lo so definire bene, però sì, anch'io li trovo un po'. Intanto mi sono scordato in chat. Ma io mo sto guardando, ma perché, raga, io non vi capisco, scusate, cioè il fermo immagine sui personaggi che hanno che non vanno. No, non lo so. Non mettere fermo immagine, metti che si muovono. Certo. Fallo muovere. Perché si vede che sono un po' storti, secondo me, ma non solo lui, ma tutti. C'è anche la tipa che poi abbiamo scoperto che è un'attrice italiana, quella dei Cesaroni, che diceva Simone. Sì, è la figlia di Cesaroni, la figlia di Cesaroni. Io non l'avrei mai capito che era lei, ma proprio zero. No, manco io, cioè, perché mia proprio. No, ma non solo non l'avrei mai capito, è che non manco, cioè manco me la sarei ricordata, cioè nel senso avrò visto due puntate dei Cesaroni. No, ben per lei che ha fatto successo in America, sono contento, insomma. Intanto volevo salutare Mr. Zero, Cuciniere e Vincent Valentine in chat che ci stanno scrivendo cose inutili, naturalmente, però ce le stanno scrivendo. Che tipo. E invece Puccio? Puccio Indiana Jones, non mi tradì Puccio. No, mi è piaciuto tanto. Questa è una delle, cioè, dei candidati al day one, nel senso me lo prendo proprio all'uscita. A me non sembrano storti, a me sembra che i visi siano, come posso dire, volutamente asimmetrici tutti, e penso che sia, cioè, una scelta di design. Almeno questa è la sensazione che mi ha trasmesso. Anche perché nessuno è simmetrico, per cui ci sta. Non è vero, io sono simmetrico. Sono un rettile. Io me lo sto mi sono guardato e riguardato il video più che altro per cercare di capire quanto sarà dominante la componente action del gioco. Penso che lo sarà completamente. Mi aspetto però un quantitativo degno di enigmi ambientali. Anche beh, guarda che il professore la X non indica mai il posto dove scavare. Esatto. No, comunque l'anteprima del multiplayer dice che sarà tipo un 50-50, perché dice che comunque le parti esplorative e di enigmi, insomma, diciamo quelle più rilassanti saranno in abbondanza, insomma, quindi evidentemente. No, lo so, io non seguo multiplayer per motivi religiosi. Ah, sì, sì, anche io, però vabbè, l'ho letto e mi sono trovato lì, insomma. Mi è capitato. Bene, bene, bene, dai, Indiana Jones, ragazzi, lo attendiamo tutti, mi raccomando, non fate gli stronzi, perché guarda che qui ci vuole poco. Io ho visto morire gente per molto meno. Puccio, io non lo giocherò. Tu non lo giocherai. No, perché sempre, perché se c'è la congiunzione non vorrebbe essere. Scozia, attacca Marco. Devi attaccare GFN. Vai, Puccio. Il mio primo gioco è diventato un meme nel corso degli anni, ed è Silksong, il seguito di Hollow Knight, che avrebbe dovuto uscire, penso, un buon paio di anni fa, se non di più. Ma mo se ne parla tanto, però. Se ne parla tanto adesso, però. Perché ogni tanto qualcosa si muove, aggiornano la pagina di Steam, però le notizie le hanno date veramente col contagocce. Io l'unica fonte più o meno affidabile di informazioni che ho trovato è l'account Twitter di un ragazzo che, non ho motivo di credere che non sia vero, sta facendo i playtest con gli sviluppatori e che non risponde a nessuna domanda, però diciamo tende a tranquillizzare dicendo il gioco c'è, è molto grande, e i ritardi hanno una giustificazione che Tim Cherry non vuole spiegare pubblicamente, che ritengo sia il fatto probabilmente che non hanno espanso lo studio di più di un tot di dipendenti rispetto a quello che ha sviluppato Hollow Knight, cioè alias tra virgolette e braccette corte, fino a corto, probabilmente un po' quello, un po' anche il fatto che ed è la cosa che mi fa più paura: se Hollow Knight è nato come gioco piccolo che poi pian piano col tempo si è espanso perché gli hanno attaccato più di un'espansione, tutte gratuite tra l'altro, penso che vogliano consegnare con Silksong un prodotto che sia completo all'origine, quindi che sia molto più grande di quanto non lo era all'inizio Hollow Knight. Non lo so, da un punto di vista mi fa piacere, dall'altro mi preoccupa, perché il bello di Hollow Knight è che all'inizio è compatto, quindi ti permette di familiarizzare subito con le dinamiche del gioco e ti lasciava molta libertà. L'idea di un gioco molto grande da subito è una specie di salto senza rete. Per ora hanno rilasciato, credo, un trailer e mezzo più o meno, poi non si è visto più nulla. Le meccaniche, da quel poco che si è visto, mi sono piaciute tantissimo. Poi io, non lo so, c'ho questo problema che dovrei indagare con uno specialista, che quando ho bisogno di rilassarmi finisco di nuovo Hollow Knight. Prima della diretta stavo controllando tra versione Switch e versione PC, c'ho quasi 500 ore di gioco. Che sono la madonna! E perché ogni tanto mi metto e lo finisco di nuovo, tipo la settimana che non sono stato bene sul serio per non agitarmi, mi sono finito di nuovo al 112% Hollow Knight. Solo che, ripeto, c'ha questo ritardo enorme, doveva uscire nel primo semestre del 2023, lo hanno rimandato di nuovo e ora non c'è una data d'uscita, quindi diciamo il 2024 è una speranza. Sì, ma tu il secondo gioco che è? Beyond Good and Evil? No, perché? No, perché vedo che ti piacciono i Vaporware proprio. Sì, proprio da. No, vabbè, comunque da annunciare. Sì, ancora non si sa, non si sa niente. Però a me non me ne frega. Non me ne frega un cazzo di questo gioco. Quindi, cioè. No, lo metteranno nel Game Pass. L'avevano messo nello showcase di fine anno scorso. Quindi, con i giochi che dovevano uscire nel secondo semestre. Tanto mettono tutto nel. Prego. No, vai. Non lo so, Marco, io non te, mi fai dei segni, non ti capisco. Vabbè. Continuiamo. Ok, continuiamo. No, comunque a me di sto gioco non me ne può fregare di meno, quindi vado proprio tranquillo con gli altri. E con Umberto. Umberto secondo me gli piace Hollow Knight, non lo so. Sì, il primo mi è piaciuto, non mi ha generato un hype incredibile per il secondo, però mi è piaciuto molto. Però a parte questo non. Ah, vabbè, Deborah, sei rimasta. Non è colpa tua, tranquilla. No, capita. Vediamo quante ore mi sono fatto. Perché non. Io non ti giudico. Hollow Knight, ci ho giocato abbastanza. Tipo 12 ore. No, ma 10.8 ore ho giocato. No, una run te la puoi fare. Una run mi sono fatto. Cioè, tu in 500 ore, Puccio, che vuol dire? Cioè, hai giocato 50 volte a sto gioco? Sì, più o meno, ma l'ho finito un numero incalcolabile di volte. Vabbè, ma questa è una malattia, scusa. Ma posso chiederti perché? Allora, ti dico la verità, io la prima volta quando ci ho giocato, dopo 10 ore credo di averlo scartato. Poi non mi ricordo in quale bundle, ce l'avevo per Switch, in quale bundle mi è finito nella versione, mi sono ritrovato la versione PC su Steam. E niente, mi tranquillizzava un po' le musiche, un po' l'ambientazione. Non è facile, cioè non è una roba molto, ti mette a tuo agio, voglio dire, ha dei picchi di difficoltà notevoli, però non è Guacamelee, cioè nel senso che è molto più tranquillo dal mio punto di vista. Da quel punto di vista sì, è vero, hai ragione, però diciamo mi ha fatto breccia. Io sono finito a tenere la colonna sonora come playlist su YouTube Music, tipo per quando viaggio. Lo trovo rilassante, lo trovo. Ah, boh, sei un fan, ci sta. Oh, sì, ti piace. Vabbè, ragazzi. Poi è bella anche la narrazione ambientale, devi andare a capire che è successo, perché non ti spiega niente nessuno. C'è una marea di segreti, quindi è stato quello probabilmente. Allora, Deborah, invece a te ti interessa? Guarda, io conosco il primo, bellissimo graficamente tutto quanto, però è un genere che tendenzialmente evito perché per me è un po' difficile, quindi non credo riuscirei ad andare troppo avanti, e come Simone ormai sa non ho tantissima pazienza, ecco. Quindi se dovessi ripetere lo stesso pezzo all'infinito mi stancherei. Però ho un amico che è grandissimo fan, me ne ha parlato tante volte, lui lo adora proprio, e anche lui sta aspettando l'uscita del seguito. Ogni volta mi dice non esce più, lo rimandano sempre, quindi diciamo lo sto seguendo soprattutto perché me ne parla questo amico. Però comunque è un bel gioco, assolutamente, diciamo non è nelle mie corde, però sicuramente è un bel gioco. Ok, allora ragazzi, 55 minuti per un solo gioco a testa, e in effetti devo dire tanto, quindi diamo un'accelerata e partiamo con Deborah col suo secondo gioco. Questo lo attendo tantissimo anch'io, eh. Allora, questo secondo gioco io spero che uscirà, perché anche questo l'hanno già rimandato, quindi aiuto. Il giorno si avvicina, diciamo, quindi speriamo bene. Uscirà il 20 febbraio e si chiama The Thaumaturge. Questo qui è un gioco di ruolo a scelte, quindi le scelte saranno fondamentali, a seconda delle scelte cambierà proprio tutta la storia. E ci sono anche combattimenti a turni, sono particolari perché praticamente puoi scegliere, non sono proprio carte, però sembrano quasi delle carte, no? Che puoi difenderti, colpire in determinati modi, oppure usare il potere di questo spirito, perché praticamente Oltre che, vabbè, è tutto testi e non è in italiano, neanche l'ha tradotto in italiano, quindi questo da giocare in inglese. Ah, e poi la visuale è isometrica, io adoro da morire i giochi con la visuale in isometrica. Comunque, ambientato a Varsavia nel 1905, noi siamo Viktor Zulski, non so se l'ho detto bene, che è appunto un taumaturge che praticamente eredita dalla famiglia questo dono, tra virgolette, che però potrebbe anche non essere visto come un dono, e riesce a vedere delle entità che vengono chiamati i Salutars, e praticamente usando delle abilità mistiche che hanno questi taumaturgi, in italiano taumaturgi, non lo so, riesce a scoprire i segreti nascosti degli umani e riesce a parlare con l'oscurità, e quindi praticamente con sé ha sempre questa sorta di mega spirito, un po' alla Death Note, avete presente, no? Che Light c'ha lo spirito, lo Shinigami a fianco, sembra una cosa simile, che lo aiuta poi a combattere. Quindi è molto particolare, bella l'atmosfera e il fatto appunto che comunque sono questi giochi di ruoli dove le scelte sono fondamentali, a me appassionano tanto. Ho provato la demo lunghissima che non ho finito, e anche per non spoilerarmi troppo il gioco, e si incontra subito ad esempio Rasputin, quindi è insomma particolare come cosa, come ambientazione, tutto quanto, e non vedo l'ora che esca. Ripeto, l'hanno già rimandato, spero non lo rimanderanno ancora, anche perché a fine febbraio è il mio compleanno, quindi sarebbe anche un bel regalo di compleanno. Infatti, no, comunque sì, questo l'ho visto nel canale di Deb, me lo sono messo anch'io tra i preferiti e lo sto aspettando tanto. C'è questa questione dell'inglese, ma vabbè, cioè nel senso faremo fatica in qualche modo. È isometrico, è un gioco di ruolo con combattimenti a turni e anche con un forte impatto cinematografico che non fa mai male, devo dire, è veramente figo questo gioco. Mi intrippa come pochi. Tu Marco lo conosci? Ma la demo dov'è? La demo dov'è? L'hanno levata. Perché quando c'è il festival delle demo di Steam ci stava la demo, però poi a volte le tolgono. Ah, baffanculo. Stronzi. No, che poi posso dire, ragazzi, posso dire la stronzata? Cioè, onestamente. Cioè, ora che hai messo la demo e l'hai messa magari, la lasci la demo, che te cambia? Che la levi? Io sono d'accordo. Per me è fondamentale provare le demo. Ad esempio, ieri finalmente ho provato la demo di Colossal Cave e ho capito che non fa per me. Okay. Quindi via dalla lista desideri. No, ma tra l'altro io proprio quando c'erano i festival ho scaricato un sacco di demo, ho detto, oh, piano piano me le gioco. E invece arriva un punto in cui le demo non le puoi più giocare, perché non le va. E vaffanculo. Sì, quando finisce il festival spesso tolgono Dai, vediamo. Una stronzata. Comunque tu Gualdi lo conoscevi sto gioco? L'avevo sentito, però oggi mi sono visto qualche filmato. Interessante. È figo. Sempre è figo. Se c'è la congiunzione potrei anche giocarci. Ma io guarda, l'ho giocato sul mio, andava tranquillo. Sì, dove la demo, scheda un po' più. Vabbè, dai. Vieni a giocarlo qui da me, dai, lo giochiamo insieme. Facciamo il gameplay. Esatto. Potremmo farlo. Devono morire tutti, lo sai che. Why not? Certo, è chiaro, okay. Pure il personaggio. Anche il personaggio. Tu invece Umberto lo conoscevi? No, però da quando Deb ha detto Salutars rido come un imbecille, perché mi immagino questo che vede la gente che lo saluta. Ah no, io pensavo che le magliette della salute. Sto ridendo. Io vedo la gente morta, lui vede la gente che saluta. La gente che mi saluta. Esatto. Come le chiamate? Salutars? Dico, beh, magari è Salutors, però può darsi che non guardo male. Non cambia molto. Va bene, va bene. Lo proverò. Puccio, tu lo conoscevi? No, avevo visto. Mi sono reso conto guardando il trailer che avete visto, la pagina Steam che avete messo in chat adesso. Mi ricordo di aver visto un trailer durante qualche evento. Sì. Però no, non lo conoscevo. Però gli do un occhio, perché a me gli strategici con i combattimenti a turni sempre piaciuti. Sì, non è una strategia, no. È proprio un gioco di ruolo a tutti gli effetti. Sì, però con i combattimenti a turni, sì, sì. Ok, Gualdi. Vedo. Secondo gioco? Eh sì. Ok, secondo no, gioco. Volevi parlare di qualcos'altro? Come si richiede un'altra volta del taumaturgo. Il taumaturgo? Beh, questo ci è interessante. Ci gioco. Vabbè, vai al secondo allora, gioco. Questo secondo gioco, non in ordine di hypes. Vabbè, ma l'hai già detta questa cosa. Imperico, avanti, ma sai, bisogna ridirlo, perché poi la gente come americani si scorda, bisogna fare il recap. Dragon's Dogma 2. Questo però solo alle 22:23. Alle 22:23 prossime, quindi fra poco. Cioè, 22 marzo. E ho giocato anche questo, il primo. E di quel gioco non è che ricordi tantissimo, perché poi alla fine non mi ha colpito molto, a parte le pedine che tu potevi mandare a distrarre con gli altri. Però mi ricordo che aveva il gioconno più brutto che io abbia mai creato, cioè, perché io poi faccio la gara, tu li fai tutti brutti, allora io li faccio apposta brutti, però c'hanno quel brutto che hanno un po' di fascino. Questo era semplicemente brutto perché l'editor non era un granché, quindi questo c'era sta faccia piatta, tonda, senza sopracciglia, perché praticamente che la collina, non so perché, ma meno, no, c'aveva veramente i basettoni, c'aveva i capelli lunghi e stava senza sopracciglia. Ma me ne sono accorto dopo 5 ore di gioco sta cosa, perché dice cazzo, poi che faccio, me lo ricomincio da capo? No, vaffanculo. Quindi, ma al di là di questi dettagli interessantissimi, che gioco è? È un gioco di menare Piz, cioè questo è un RPG dove c'è il protagonista che si chiama Ryzen, che praticamente ha dei poteri particolari che neanche mi ricordo, pensate quanto mi è rimasto impresso. E questo è il secondo capitolo, quindi con una grafica migliorata e con più giocabilità, e praticamente va in giro per questo mondo e deve risolvere la quest principale con tante su quest secondarie, quindi niente di particolarmente nuovo, se non fosse che ci sono queste pedine che sono gli schiavi, che sono questi personaggi companion che puoi mandare a anche addestrare nel mondo, diciamo, dell'internet, a far giocare con altri giocatori. Quindi poi aumentano di livello, ci sono altre abilità, vabbè. Interessante, questo è un gioco che voglio sempre provare, se sì, magari ci fosse questa congiunzione Game Pass, GeForce Now, insomma, vedremo un po', ma questo forse ne dubito. Ok, Puccio, tu mi sai, questo è un po' un gioco da te. In realtà è un gioco per mia figlia. Ma che, Dragon's Dogma? No, è Umberto che ha fatto il Dance Ring. No, siamo a Dragon's Dogma, tu stai... Scusate, pensavo stessimo saltando i secondi giochi. I bet. No, non è un gioco per me, nel senso che ho provato a giocare il primo, mi sono incartato in una maniera indegna e non sono andato più avanti, quindi dal seguito non mi sono neanche interessato. Ah, proprio così? Madonna, ho provato a giocarci, cioè c'era nella libreria di Steam, ma non è neanche difficile, non mi ricordo, non lo so perché, ma c'ho, aspettate, c'ho esattamente 2400 ore di gioco, cioè l'ha proprio mancato, lasciato subito. 12 ore virgola 2, quindi e poi mi sarò incastrato e niente, non sono riuscito a farmelo piacere. E vabbè, succede, è perché ti devi fare il personaggio brutto. Umberto? Mo segno, fare personaggio brutto. Io ho visto il trailer proprio un paio di giorni fa. Effettivamente sembra interessante. Non lo so, lo proverò o non lo proverò? Boh, non lo so, c'ho troppa roba da giocare. Non credo comunque. Debora? Io il primo l'ha giocato Gabriel, l'ha amato tantissimo. Quindi sicuramente vorrà giocare al secondo. E se lo prende lui, allora io lo proverò sicuramente. Quindi perché no? Vabbè, io è inutile che ve lo dico, proprio non ho mai giocato manco il primo. No, nel senso non l'ho mai seguito, quindi non so neanche proprio che tipo di gioco è. Cioè, ho capito che è un, proprio la brutta Skyrim. Sì, ecco. Diciamo che è un gioco di ruolo d'azione. Vabbè, questo va bene, insomma, vabbè. E Umberto. Che volete il secondo gioco. Allora, quale scelgo? Scelgo sicuramente questo DLC di Elden Ring, che sarebbe già dovuto uscire e che pare uscirà nel 2024. Elden Ring penso che lo conosciate, molti di voi penso che lo odino in qualche modo. Io invece è il gioco a cui ho giocato di più l'anno scorso, mi sono fatto oltre 200 ore, cosa rarissima per me ad un gioco, perché mi ha preso, bella ambientazione, storytelling che ti porta ad approfondire fuori dal gioco per capire che cazzo sta succedendo, un po' come tutti i Souls. Però diciamo che questo è il primo, che poi vabbè, questo è un DLC e ancora il primo, è un gioco che mette insieme secondo me quanto c'è stato di buono in tutti i Souls, anche in Bloodborne per alcune cose, e crea un gioco che effettivamente, se ti piace un po' di sfida, perché poi dicono che sono difficilissimi, in realtà non sono difficilissimi, sono semplicemente giochi più difficili della media oggigiorno, ok? E non lo so, Cosa posso dire su Elden Ring? È un gioco di ruolo, in realtà è un action RPG con dove il personaggio lo puoi personalizzare parecchio, dove in questo caso qui è totalmente open world, puoi trovare dappertutto dei labirinti, delle caverne, puoi andare a fare un po' di loot, poi esci fuori, ti fai un po' di missione, insomma è un atteggiamento molto open world con una giocabilità da Souls. Ma è un Souls o no? Ma in realtà sì, è totalmente, il motore è assolutamente quello, c'ha delle cose in più, puoi saltare, c'è il cavallo, insomma ci sono, però la giocabilità è quella dei Souls. E puoi saltare col cavallo? Puoi saltare col cavallo. Puoi saltare sul cavallo anche. Puoi saltare anche sotto il cavallo. Ecco qua. E allora puoi fare tutto. Ritorniamo alla puntata di ieri sera del Popcorn. Va bene, ok. Vabbè, sì, questo ci sta. Quindi chi è che ne vuole parlare? Marco? Io non li sopporto, però è un periodo che c'eri impugnato. Lo so, però a un certo punto in questi giochi arrivo sempre quando fai le stesse cose per fare esperienza. Vabbè, pure te la pazienza. Dopo un po', punto, la domanda ti viene fuori è: che cazzo me lo fa fare? E quindi passo, ho passato già gran parte della mia vita a giocare a dei Souls-like dove c'avevi le vite contate. Basta. Sì, è vero, è questo il problema. Basta, magari... no. Sì, magari io oggi a 52 anni quasi, diciamo, me ero un porcato, non c'ho più manco, come te posso dire, il sincronismo, capito? Cioè, nel senso, l'abilità tecnica che c'avevo magari 10 anni fa, capito? No, beh, però io non lo so, io personalmente mi diverto i giochi in cui devi essere tecnicamente bravo. Appunto. Mi piacciono quelli narrativi, questo, però ogni tanto ci vuole la partita a qualcosa dove devi imparare, cioè che non sei subito padrone nella. Ma certo, io sono d'accordo, cioè non è proprio un mio limite che oggi faccio un po' fatica, capito? Cioè tutto là, insomma, quindi non ne fa fatica. Vabbè, Debora? Sempre io come dicevo con i Souls perché non sono brava e perché mi stufo, però a Gabri li gioca tutti, l'ho visto giocare un po' anche Elden Ring, lui l'ha adorato e in questo periodo stiamo giocando insieme a Lies of P. Io guardo, lui gioca, però quello mi sta piacendo tanto perché mi piace molto l'ambientazione. Beh, sì, l'ambientazione. Mentre Elden Ring, io stavo studiando ancora mentre lui ci giocava, un po' l'occhio mi ci cadeva, però pensavo anche palle, insomma. Quindi, ok, cioè nel senso tu studiavi e lui giocava, bravo Gab. Così sì. La sofferenza è il principio dell'evoluzione. Comunque. Il mio secondo gioco è un po' la sintesi dei giochi che gioco io, un po' fondamentalmente, ed è il nostro carissimo Fallout in salsa australiana, fondamentalmente. Diciamo, se proprio vogliamo riassumerlo, perché è Broken Rules. Broken Rules? Dillo tu, Waldi, che sei... devo dire il titolo, che è Broken Roads. Roads, visto, quanto sono bravo. Che praticamente è questo gioco di ruolo... stile classico da un certo punto di vista, con ambientazione post-apocalittica, ma in Australia. Mad Max, quindi. È tosto, nel senso che il linguaggio è particolare, non è un inglese, forse un inglese un po' più complesso da un certo punto di vista, proprio perché c'è tutta una gergalità tipica dell'Australia. Io che sono stato in Australia e Nuova Zelanda posso assicurare che è tosto, ma anche dal punto di vista dell'accento, non è soltanto dal punto di vista della sintassi, insomma. E però, diciamo, provando a scavalcare questo difetto, io è un gioco che attendo tantissimo. Ha un sistema basato sulla chiamiamola sulla moralità, sulla tua inclinazione più che moralità. Quindi a seconda di come tu vuoi essere come tipo di persona, se empatico, se più cinico, se più calcolatore, diciamo così, e questo allineamento che tu dai al personaggio si riflette anche sui dialoghi che tu fai, e a seconda delle scelte che tu fai, diciamo che non dico che si modifica questa specie di come si chiamano, esagono, diciamo un esagono, che praticamente indica i vari punti dell'inclinazione del personaggio, la personalità del personaggio, la personalità, e quindi praticamente a seconda delle scelte che tu fai, a volte possono essere, diciamo, tra uno e l'altro, può essere un'altra scelta, roba genere, si modifica andando praticamente a prendere un orientamento magari fra due tipi di orientamenti diversi, o anche cambiare, non so se si cambia tanto. Beh, per dare comunque un'impronta proprio al personaggio come tipo di come posso dire di nomina, magari adesso non mi viene bene il termine, però insomma comunque è il modo in cui poi gli altri si rifletteranno nei tuoi confronti, cioè nel senso, se tu sei un pezzo di merda, o se quello che si evincerà dalla costruzione del personaggio sarà che tu sei un pezzo di merda, evidentemente allora, gli altri tutte queste cose le ho già sentite in passato, sarebbe simpatico vedere se funzionano. Certo, questo è chiaro, ma questo okay. Allora c'è la demo in questo caso, quindi Gualdi, se vuoi vartela a giocare. Debora la gioca, costa poco in termini di risorse, vero? Cioè, quindi non è è un classico isometrico. Sì, l'ho visto. Ok, cioè Debora l'ha giocato nel suo canale, giusto Debora, mi sbaglio? Io questo ce l'ho in lista desideri, abbiamo provato la demo sempre durante il festival delle demo lunghissima anche questa, infatti a una certa abbiamo interrotto perché, cioè, come dicevi te, soltanto per fare le scelte sul tipo comportamento del personaggio c'era una quantità infinita di scelte, ma solo di quello, cioè già all'inizio mezz'ora solo di quello, e lo sto aspettando tantissimo. Mi preoccupa però che doveva essere già uscito e adesso è senza data, quindi questa cosa mi ha preoccupato abbastanza. Perché non è che sono stato rimandato come è successo con The Thaumaturge o con Alone in the Dark, hanno levato la data, a data da destinarsi, quindi non si sa quando uscirà, questa cosa è preoccupante. E come dici te, l'inglese è molto difficile perché è uno slang, no? Come dicevi te, tendente all'australiano, insomma non è proprio inglese. E in più, siccome ce n'è tantissimo di testo e parla di profilo psicologico, insomma non è proprio facile come inglese, quindi me ne sono resa conto subito dalla demo che non era proprio semplicissimo, però lo sto aspettando tantissimo anch'io. Infatti oggi sono andata a vedere, cioè quando ho fatto la lista, non oggi, quando ho fatto la lista dei giochi volevo metterlo. Quando ho visto che era addirittura data da destinarsi in arrivo, no? Dico no, vabbè. E quindi lo aspetteremo, speriamo uscirà a breve, insomma. Comunque questo gioco esce in tantissime lingue, ovviamente. Cioè, per esempio, inglese, francese, tedesco, polacco, naturalmente. Anche transibichereano. Portoghese, ma brasiliano. Cioè, nel senso, se sei portoghese. Sono di più dei portoghesi portoghesi. Se sei portoghese di Portogallo, non va bene, non lo so. Vabbè, russo, ovviamente, perché non è. Il cinese semplificato, lo spagnolo. Però, c'è anche però, l'inglese normale? No, aspetta. Lo spagnolo però dell'America Latina, cioè non che se sono sempre di più di spagnolo. Esatto. Ma esce l'inglese? Sì, l'inglese è solo quell'inglese lì. L'inglese australiano. Hanno difficoltà anche per dire inglesi. Beh, diciamo che sicuramente fanno meno fatica di noi. E in effetti mi ero dimenticato di dire quello che ha detto giustamente Debora, che all'inizio la costruzione del personaggio non è estetica, nel senso come magari ti metti lì, come ne so, è psicologica. È proprio così, devi costruire proprio il personaggio. Lui risponde a una serie di questioni. Un test. Dopo questo test attitudinale, tu praticamente c'hai un determinato tipo di personaggio, ma anche cambiano anche le risposte che dai. In che senso? O è sempre come vai a prendermi un bicchiere d'acqua? Sì. Allora, oppure secondo me, da quello che ho capito io. Risultato del test può risultare che tu sei incline a due tipi di personalità che sono, diciamo, accostati, metti per ipotesi, e probabilmente le linee di dialogo avranno anche altre opzioni, però magari altre opzioni che sono completamente all'opposto magari non sono contemplate. Forse sono neutre o allineate. Esatto, cioè nel senso vai. Guarda, perché praticamente in verità sono quattro le risposte, sono i quattro tipi di personaggio che puoi essere, perché c'è quello che ragiona, quello che non ragiona, c'erano quattro nomi differenti, adesso erano in inglese, non mi ricordo, ed era un test proprio psicologico, perché ti faceva domande tipo: se tu ti trovi in questa situazione, che fai? Salvi la ragazzina, salvi il vecchio, salvi la famiglia o salvi il paese? Quindi a seconda delle quattro risposte, poi tu ne sceglievi una, ovviamente, Finito il test, ti faceva vedere lo schemino che diceva lui esagonale, insomma, questo così, e ti faceva vedere su dove stavi di più in confronto, a seconda delle scelte, capito? Quindi costruito proprio a seconda delle tue risposte sulle scelte, su cose tipo chi salveresti tra. Cioè questo qui. Quindi, cioè, diciamo che devi anche ragionare un po', insomma, cioè, non è che sono domande proprio, che ne so, ti piace più un cane o un gatto. Sì. Cioè domande con scelta etica e morale anche, quindi insomma, va ragionata. Ma poi incidono poi queste cose sul il problema è che le domande penso proprio di sì. Le domande sono talmente tante che si presuppone che la tua inclinazione nel gioco sia quella. Ok, cioè difficilmente dopo che tu hai risposto a 25 domande che hanno sviluppato un certo tipo di andamento del tuo comportamento, difficilmente tu ti comporterai diversamente, a meno che delle eccezioni. Però da quello che mi ricordo io, tu le altre scelte ce le hai nel dialogo, se non mi sbaglio, e queste possono modificare la tua posizione nell'esagono, cioè nel senso del modo in cui tu sei inquadrato dal punto di vista psicologico. Come cambia lo vedremo poi magari piano piano giocandoci a sto gioco, insomma. Magari faranno una traduzione italiana con DeepL, come hanno fatto con... Però in dialetto sardo, così tanto per un pezzo. Esatto, come hanno fatto con cosa, con Disco Elysium, insomma, che poi alla fine tutto sommato hanno fatto un buon lavoro. Puccio e Carmine lo conoscevate? No. E tutti e due. Cosa? Sia Puccio che Carmine. Ah, tu li conosci tutti e due? No, ma questo è umorismo glaciale, oserei dire. Insomma. Meta, direi. Io lo conoscevo, ero interessato al processo, la complessità del processo di generazione del personaggio non mi era chiara, la stavo vedendo ora che ne stavate parlando. E Caruccio, poi effettivamente è un'ambientazione che interessa molto anche a me. Sì, lo sapete, questa, io... Questo deserto post-nucleare, che in realtà è l'Australia. Sì, che poi è uguale, cioè agli australiani gli cambia poco, devo dire la verità, perché alla fine deserto post-nucleare sono prima della guerra nucleare e post-nucleare sono dopo il nucleare, quindi cioè, all'Australia gli cambia poco sostanzialmente. Al punto c'erano di... già i mostri, i mutanti. Sì, giganti, sì, l'ambientazione in Australia è un continente assassino già di suo, insomma. E comunque devo dire che poi io... Insomma, poi dopo aver giocato Westland 3, e il 2 ovviamente, insomma, per me lo sapete che per me sono giochi che... È proprio l'ambientazione, io sono fatto così, non c'è niente da fare. Va bene, Puccio, andiamo al tuo secondo. A me non mi domandi. Te l'ho chiesto, ho detto, non lo conoscevate, ma... No, tu hai chiesto a Puccio e Carmine. Cazzo. Madonna, ragazzi, che brutta storia. Cardiaspirina. No, qui non è cardiaspirina. Qui. Scusa, vabbè, hai ragione. No, perché io ero convinto. Secondo me il Babies. No, pensavo che tu volessi dire questo gioco fa talmente tante domande che mi sono rotto il cazzo. No, perché io quando quella cosa ho detto Puccio e Carmine è come se avessi detto Puccio e Umberto, capito? Cioè, nella mia testa. Sì. No, tranquillo. Vabbè, Carmine è anche un nome delle tue parti. Come in effetti. No, la cosa strana è che la cosa che mi aveva colpito è che non sapevo che ci fossero tutti questi dromedari in Australia. Ho detto, ma in Australia cazzo ci fanno i dromedari? Quindi stavo leggendo cosa ci fa un milione di dromedari in Australia. Stavo totalmente off topic. E ne hai vinto qualcosa? Cioè, hai capito il perché ci stanno? No, sì, li hanno portati gli inglesi. Stronzi inglesi, però ce ne stanno tanti. Hanno fatti pochi dei danni gli inglesi, vabbè. E continuano a farli, però vabbè, pazienza, è un'altra storia. Però posso dire una cosa, cioè lo guardo e non mi piace proprio, non so, c'è qualcosa che mi dà fastidio questo gioco. Ti irrita addirittura? No, ma perché? Tipo l'ambientazione o la grafica? No, la grafica, il colpo d'occhio per quello che ho visto. Non è quello da quel punto di vista, però... Questo così permette di giocarlo anche a Marco Gualdi. Esatto, quello lo posso giocare. Poi non capirò quello che dicono. No, non fa niente. No, allora, tu lo capisci, Marco, lo capisci. Poi quello che non capisci, tu di sempre di sì. Ma adesso c'ho Deeple sul computer. Quindi. Deeple è vero, sì. Okay. Va bene, dai. Allora, Carmine, andiamo col tuo secondo. più del mio, stavo dicendo, è il gioco che sto prendendo nella speranza di giocarlo con mia figlia, che è Princess Peach Showtime di Nintendo. Io francamente non lo conoscevo benissimo, ce ne siamo imbattuti mentre guardavamo un direct io e mia figlia insieme, e hanno presentato, diciamo, questo clone, un po' di Kirby, un po' di Super Mario, che ha come protagonista la principessa Peach, che avrà poteri diversi in base a quale vestito indossa. Quindi avremo la principessa Peach pasticcera, investigatrice, spadaccina, fioraia, da quello che ho visto, che più ne ha più ne metta. Sembra un platform abbastanza classico, dicevo prima che secondo me somiglia più a Kirby che ai vari Mario, perché poi cambiano i poteri in base all'abito che indossa, come cambiavano i poteri di Kirby in base a chi ti magnava. Spero di poterlo giocare con mia figlia, che è una cosa che mi fa sempre piacere. Abbiamo giocato al nuovo Mario insieme, ma penso di ripetere l'esperienza con Princess Peach, le piace molto, quindi diciamo, mi sento obbligato ad attenderlo. Va bene, possiamo chiudere la trasmissione qua su. No, va bene, nel senso, tu dici spero di giocarlo con mia figlia, intendi dire che tu lo giocheresti comunque? No, penso che lo comprerò perché ci giocherà lei, non so se lei lo vorrà giocare con me, è quello il punto. Ah, ok, ma tu ci giocherai lo stesso? Probabile, un'occhiata gliela do, come gliela do a tutti i platform Nintendo in generale. Probabilmente. Beh, d'altronde lo mollo dopo 20 minuti, però beh, d'altronde loro sono maestri da sto punto di vista, insomma, no? Mm-hmm. E Umberto, tu invece? Ti piace Peach Princess What's in the Way? Diciamo che io sono un amante dei giochi Nintendo in generale, però Peach mi sta proprio sulle palle, mi è sempre stata sulle palle. Brutta stronza. Non lo so, il fatto che sia un gioco dedicato a lei non mi sconfinferà tanto. Probabilmente se mettono una demo la provo, e se poi lo vuole Elio lo prenderemo a quel punto. Ok, okay. E Marco? C'è pure da chiedere, insomma. No, ma tu poi Nintendo. No, ricordiamo sempre il nostro amico giapponese che ogni tanto ci chiama, perché ce la prendiamo con i giochi Nintendo, hai ragione. E invece, Deborah, ma tu ce l'hai i console Nintendo a casa? Sì, ho la Switch, e a me i giochi di Super Mario sono sempre piaciuti, continuo ancora a divertirmi, ogni volta ne esce uno nuovo mi piace giocarlo, anzi mo a Natale abbiamo regalato a nostro cognato l'ultimo, quindi così mo ci gioca lui, poi ce lo da noi, quindi ottimo. E questo di Peach, c'è da dire che se è come Super Mario già mi piace di più, se tende al Kirby già mi piace di meno, e però comunque penso se capita l'occasione, perché no, insomma, alla fine l'ambientazione del mondo di Mario mi piace, è sempre carina, sempre patatina, sempre divertente, colorata, quindi perché no? Bene, bene. La parola rimane a te, Deborah, dato che passiamo con il terzo gioco. Sì. Allora, il terzo gioco è un gioco italiano che dovrebbe uscire nel 2024. Stop. Ma come italiano, scusa? Made in Italy, Simon the Sorcerer, Simon the Sorcerer Origins. Questo è proprio fatto da un team di sviluppo italiano. Ah, sì? Ed è un prequel del primo Simon. Allora, io ho giocato tutti i Simon, e i primi due sono quelli che mi sono piaciuti tantissimo, e il secondo è tra le mie avventure preferite in assoluto. Gli altri potevo evitare di farli, onestamente. Il terzo è l'avventura grafica, se si può definire tale, più brutta che abbia mai giocato nella mia vita, cioè veramente una cosa inguardabile, infatti l'ho abbandonato, non l'ho finito. E gli altri l'ho abbastanza rimossi, il quarto e il quinto, quindi secondo me si potevano fermare i primi due, cioè non c'era proprio necessità di fare questi seguiti, che poi i primi erano pixellosi, poi sono passati al 3D, poi sono passati a non so, una cosa brutta pure. E invece questo qui è molto cartunesco, molto bello il disegno, mi piace tantissimo, solo che mi chiedo una cosa che si sono chiesti un po' tutti quelli che lo stanno aspettando, ossia se nel primo Simon è la prima volta che lui va nel paese dei maghi praticamente, e lui si allena per diventare mago, cioè nel prequel, in questo prequel si vede già che lui che va in questo mondo dei maghi, che adesso non mi ricordo come si chiama, e già lì si allena per essere mago. Quindi come può essere prequel di una cosa che poi lui la prima volta che ci va nel primo, capito? Quindi vabbè, secondo me è un reboot, è, è tipo un multiverso alla Marvel diventa questa, vabbè, cosa. Ricordati, quindi... ricordati che a un certo punto però c'è una DeLorean in Simon the Sorcerer, quindi è quello, può darsi. No, ma poi secondo me è proprio un reboot questo, più, cioè no, proprio... no, è un prequel, non è un reboot, è proprio prequel. E questo qui sarà comunque doppiato solo in inglese, però almeno un gioco made in Italy, sottotitoli in italiano ci saranno, insomma, quindi perché doppiarlo in questo italiano? Lo sto attendendo, speriamo che uscirà quest'anno, c'è scritto 2024, non c'è una data precisa. Allora, io non però sapevo che veramente molto molto carino, non sapevo che una software house italiana avesse i diritti di Simon the Sorcerer, mi fa piacere. Certo, ma chi guarda, aspetta, guarda, non mi ricordo come si chiamano. Te lo dico subito, un secondo solo. Ok, Origins. Allora, è la... sono gli Small Thing Studios, sì, si chiamano. E l'etichetta è Leonardo Interactive. Mai sentito? Però lo sviluppatore Small Thing Studios, e ci sta anche Willy Morgan, quindi forse sono quelli che hanno fatto anche Willy Morgan. Ah, ragazzi di Willy Morgan, questa IP, no, li conosco. Ok, e allora se li ha conosciuti, telefono, gli dici perché non avete messo il doppiaggio italiano? Purcia. Ma fanno bene, ma perché devo mettere il doppiaggio italiano? Perché io ti metto i doppiaggi italiani, mi dico, che cazzo te la metti il doppiaggio? Costa un sacco di soldi, costa molto più di così. Lo faccio io il doppiaggio italiano, facciamo noi tutti insieme, cioè gli italiani ti cacano, perché poi c'è questa cosa degli italiani che se sei italiano ti buttano merda in faccia a priori, ok, e poi ti devo fare pure il doppiaggio, fottiti, no? Vaffanculo italiano. tanto esce in italiano perché io il gioco lo scrivo in italiano, perché sennò non mi preoccuperei neanche di tradurlo, eh. Va bene, no, che brutte cose, no, che brutte cose che stai dicendo, Umberto, guarda. Lo so, ne abbiamo già parlato, però effettivamente è così. Cioè, il doppiaggio italiano gli costa mediamente il 30% in più di quello inglese. Vabbè, quello sappiamo, sì, è vero. Quello è il problema di base, fondamentalmente. A meno che non vuoi prendere dei cani a farlo, però a quel punto è meglio che non lo fai, no? Cioè, e su questo sono d'accordo, assolutamente. E io ce n'avrei due o tre esempi da fare, però. Io anch'io, guarda. Però non li faccio perché sennò poi dopo mi tocca litigare. Comunque gli italiani veramente bistrattano i prodotti nostrani, perché se l'ha fatto un italiano non può essere un buon gioco, più o meno questo è l'atteggiamento, non nostro però in generale, sì, diciamo che gli italiani non comprano proprio in generale, quindi c'è pure questa altra questione, insomma. E infatti non li stanno traducendo più i giochi, però, cioè, solamente le IP molto grandi. Sì, è vero. Mi sono trovato anche perché a parlare con uno sviluppatore, proprio chiedendogli direttamente su Steam se era prevista una traduzione in italiano. Lui diceva: cioè, guarda, ma neanche se me lo chiedono di farlo gratis, perché non è giusto che io chieda comunque a dei fan delle persone di lavorare gratis, perché in un mondo ideale le persone devono essere pagate. Cioè, però io non, cioè nel senso, pagare un servizio per una lingua che alla fine non mi porta introiti, cioè per me non c'ha senso, ma c'ha ragione, cioè è onesto come discorso, però secondo me il discorso dovrebbe essere allargato un po' di più, e fa anche un discorso culturale pure sull'acquirente, sulla gente che compra, invece rompe i coglioni, comprateli i giochi e poi dopo vi lamentate, invece voi vi lamentate prima di comprarli i giochi e poi non li comprate proprio. Comunque, non vabbè, non piratate, io poi direi non piratate, perché l'Italia come pirateria è altissimo. Sì. Già un paese piccolo, cioè, capito, magari la percentuale è la stessa di altri paesi, però il paese è piccolo, c'è cioè una bella fetta di pirateria, sì, più la proporzione, l'impatto è maggiore. Certo, è chiaro. Comunque, l'origine di Simone il Sorcio, chi è che lo gioca, te Puccio? Le avventure grafiche ti piacciono? Parecchio, però questo francamente ne apprendo oggi l'esistenza. Ci devo impegnare un attimo, un occhio glielo do, perché comunque la serie mi piace, però veramente non ne sapevo nulla, quindi mi tocca a Gualdi, manco io lo domandiamo, no, assolutamente no. Guardiamo avventure grafiche. Io devo dire, le avventure grafiche sono state sempre il mio genere di riferimento sin da quando ero ragazzino, però non ho mai empatizzato con la serie di Simon the Sorcerer. E quindi, però questo mi piace questo stile animato, mi ricorda uno degli ultimi King's Quest che erano fatti un po' alla Disney, insomma, quello con Rossella che viene rapita e casca in un mondo, mondo alternativo, non mi ricordo, insomma, vabbè. King's Quest l'hanno fatti 14.000, quindi insomma alla fine va a ricordare tutto quanto. Bene, bene, brava Deborah, questo l'avrei messo anch'io in lista, devo dire la verità, anche se detto non sono un fanatico della serie. E invece Marco, giustamente, andiamo sulle radiazioni, quindi con il secondo capitolo che finalmente arriva, cioè Stalker 2 Heart of Chernobyl. Scusa, che... ma Stalker non è quello là iperrealistico? No, quello che basta un colpo per morire? No, quello è Arma. Scusa, okay. E, no, questo è il seguito di un gioco che ho giocato in cui ci sono questi stalker che sono praticamente dei ricercatori, delle persone che si appostano sotto casa, ti fanno le foto. Cioè. No, prima ancora di questo c'erano questi stalker che stavano nella zona proibita, nella zona praticamente di piena di radiazioni di Chernobyl, la zona chiusa al pubblico, che andavano a cercare questi artefatti generati dalle anomalie sempre generate dalle radiazioni. E c'era tutto questo ecosistema con branchi di animali mutati che si muoveva in base anche al giorno, alle condizioni atmosferiche e via discorrendo. E c'erano queste fazioni che difendevano e si contendevano i territori, più queste strane anomalie che generavano fulmini, fuoco, eccetera, eccetera, che erano invisibili, e tu dovevi andare lì a tirare i bulloni per vedere se succedeva qualche cosa. Quindi c'era questa ambientazione post-apocalittica, anche se era limitata alla zona, diciamo, di Chernobyl. E il tuo scopo era quello di arrivare al centro dell'esplosione, della fusione del reattore, quindi dove c'è stato il reattore nucleare. Perché? Perché dentro questo reattore pare che ci fosse un artefatto che poteva esaudire tutti i desideri. E questo è il gioco che c'ha il finale più stronzo, penso il più stronzo che io abbia mai visto, perché mi ha ricordato una delle puntate una puntata qualsiasi di I confini della realtà, per dire, dove c'è il protagonista alla fine che viene beffato dalla sorte. E qui la stessa cosa, perché i vari finali, che sono tutti quanti praticamente si possono decidere scegliendo il desiderio, perché alla fine esiste questo artefatto, sono tutte beffe ed è fantastico. Quindi, però è un gioco che di per sé era figo, siccome questo è il seguito, ho visto qualche filmato ed è interessante, riprende molto il primo, però ovviamente in maniera molto più aperta. Sono molto interessato, sempre se poi non sarà una ciofeca. Dovrebbe uscire il 5 di settembre, quindi dovrebbe, perché, ancora sì, dovrebbe, perché questo è un team russo, la GSC, aspetta che mi devo ricordare, GSC Game World, perché stanno in guerra, sono adesso in Ucraina, sì. No, ma a parte gli scherzi, ci hanno avuto problemi, perché alcuni sono andati a combattere, altri un po' di problemi, gli hanno pure fregato, sembra, una copia del codice interno per fare le prove, ma perché loro sono ucraini, non sono russi. Ucraini. E quindi sono avuto un po' dei casini, però insomma sembra che stiano riuscendo a portarlo a termine, e speriamo che gli vada tutto quanto bene. Io sono abbastanza curioso. Bene, chiedi anche voi se che... in prima persona, sai come il gioco in prima persona non mi piacciono, però questo mi è piaciuto. Chiedi voi che ha giocato Stalker il primo. Io l'ho giocato, piaciuto? Abbastanza, sì, era avanti all'epoca, oramai un fottilione di anni fa. Il 2 ti piace, ti interessa? Sì, mi interessa, sì, dai, sì, sì, mi ha incuriosito il trailer. Ok, Puccio? Giocato al primo, così dubbioso sul secondo. Vabbè, se te dovesse capire sotto mano, dici. Sì, me lo metto nel Game Pass, ci gioco. Ok, Deb? Guarda, in diretta runtime si è unito Nico e praticamente dice che anche lui da tempo sta attendendo Stalker 2. E io invece conosco solo che esiste il gioco. Ciao Nico e benvenuto intanto su diretta runtime. Sì, no, io il primo un po' ho seguito Marco che mi raccontava la storia, perché si era appassionato a sta cosa della parte soprannaturale, che insomma è poi la parte più affascinante, ecco, diciamo. Se no, per quanto riguarda Stalker, l'unica cosa che so è che alla fine ci stavano sti tizi, quello di Urbex Squad, quel ragazzo italiano che è andato in Ucraina proprio nel periodo in cui ancora non si poteva andare in tante zone, perché sti stalker praticamente ti fanno entrare in tutte le zone nascoste, solo che praticamente devi stare lì 3 giorni, devi dormire in mezzo alle radiazioni, e se questo vi fa piacere, fatelo tranquillamente. Insomma, non è una cosa che ci riguarda a noi. Chi è il prossimo? Umberto, vai col terzo, giusto? Sì. Vediamo. E vabbè, hanno Metroid Prime. Hanno mostrato Metroid Prime 4 con una bella schermata con scritto Metroid Prime 4. Quindi pare che debba uscire nel 2024, e quindi per me è doveroso metterlo, dato che Metroid è una delle mie saghe preferite di sempre, cioè uno dei miei giochi preferiti di sempre è Super Metroid. E devo dire che il loro port in 3D su GameCube è stato felice, al di là, a differenza di tanti altri titoli che nel passaggio in 3D hanno perso tanto, hanno fatto un buon lavoro. Quindi beh, averne uno a distanza di molti molti anni, perché ricordiamo che il 3 è uscito per Wii, quindi non mi ricordo l'anno preciso che è uscito, 2009? Forse Puccio se lo ricorda. Metroid Prime 3. Io corretto. Di sì, aspetta. Beh, comunque se era Wii almeno una decina d'anni fa, sicuro, forse di più anche. Sì. 2007. Prima del 2007. Sì. Quindi a parte questa rivisitazione con un platform old style, diciamo, per Switch, sono parecchi anni che non esce questo Metroid qui, e lo aspetterei con ansia, ed è forse uno dei pochi giochi che comprerei al lancio. Bene. Marco, tu i Prime dei Metroid sono a malapena che esistono. Ah, ok, pure te, niente, Nintendo, qualsiasi cosa, niente. No, beh, Puccio, nessuno affascina, sì, questo fascino. Si chiama pregiudizio. Sì, sì, è vero, ma io lo ammetto che è un pregiudizio il mio. No, io no, perché comunque ho avuto anche il Nintendo 64, cioè, ho giocato a ma tanti giochi. Ma tu hai avuto la console peggiore che hanno mai esatto, fatto. Tu ci giocavi a Superman, che Superman è fighissimo. Che è uno dei giochi più brutti. Guardate, io mi pento di averlo ridato indietro, l'avrei dovuto. Ah sì, oggi ci avrebbe fatto come, ci facevamo i gameplay su YouTube. C'era Ocarina of Time, c'era Star Wars Shadows of the Empire, c'erano tante belle cosine. Vabbè, quindi Metroid non te ne frega niente. Le hai nominate tutte, però, perché poi non ce ne sono finita. Poi basta. Io comunque il Superman del Nintendo 64 ce l'ho, se volete. Ah ok, dai, una volta andiamo a casa di Deborah e facciamo un gameplay. Facciamo il gameplay. Esatto. Facciamo una super live, praticamente diventa una cosa comica. Vabbè, e te invece Metroid, Deborah, giusto? Io non mi esprimo, perché sapete che sì, no, io conosco la serie, ovviamente famosissima, però solo conosco, in verità è una di quelle serie famosissime che non ho mai giocato, quindi è una mia grave mancanza. Ma nessuno dovrebbe mancare Super Metroid, per quel che... E sono d'accordo, è una grandissima mancanza. Nessuno che voglia definirsi un videogiocatore deve mancare Super Metroid. Addirittura. Così come Castlevania Symphony of the Night, sono giochi imprescindibili, cioè nel senso che veramente sto scherzando, però se avete modo date un'opportunità. Sì, anche poi perché poi sia mio ragazzo che il fratello sono fissati, quindi ce l'hanno tutti, pure quelli della Switch eccetera eccetera, quindi in verità posso recuperarli senza problemi. Vai Deborah. Poi direte quello stronzo c'aveva ragione. No, ma guarda che io non, cioè, no, faccio una precisazione e poi vado al mio prossimo gioco. Cioè, non è che io dico che i giochi sono brutti, cioè è che non ho mai avuto un feeling e non ho mai avuto una console Nintendo in generale, quindi è proprio un filone che non mi appartiene. Poi dopo, se dovesse capitare comunque l'occasione o la situazione per il quale uno comunque si mette lì, anche sicuramente li giocherei. Non è dire oh, che schifo, non li voglio giocare perché che schifo, capito? Cioè, nel senso, che schifo. Un po' sì, però, yeah, ma ci sono altre cose. Ci sono altre cose di Nintendo. Però da riprendere il fatto che tu non hai mai avuto console Nintendo, vergogna. Mai, no, assolutamente. vergogna. Ma guarda, shame. Non mi sono né mai vergognato né mai vantato. Insomma, e tutte mai come mancata. No, comunque tu c'avevi, non ce l'avevi avuta. C'ho la Wii. Ma l'avevo comprata per Matteo. Hai avuto il 3DO. Ma il 3DO non era Nintendo, però. Era Panasonic. A proposito di Alone in the Dark, ho riprovato la versione 3DO, che ne parlavano meglio delle altre ultimamente. Invece? Comunque, eccesso uguale. Eccesso uguale, infatti, ma non ne amo dubbi, guarda, su questo. Comunque, si salvano. Il mio prossimo gioco non è, diciamo, un gioco che aspetto, ma è un atto di fede. È un atto di fede di quelli che solo l'uomo che crede nella luce eterna può. La morte. Perché stiamo parlando di The Last Night, che è stato annunciato nel 1917. No, comunque nel 2017. È un platform. Durante un E3. Esatto, è un platform cinematografico, thriller cyberpunk, anzi qui definisce proprio post cyberpunk, perché ormai è passato le mode. Esatto. È un gioco ma è quello che presentò Microsoft un sacco di anni, esatto, che tra l'altro con un trailer che c'aveva un carisma della Madonna, con una musica bellissima, con uno stile proprio figo, che è proprio quel tipo di giochi che a me piacciono. Però poi se n'è veramente completamente, non se n'è più parlato, tranne ultimamente, ed è stato inserito nelle liste dei giochi che usciranno nel 2024. Ci vogliamo credere? Ci vogliamo credere? E non mi ricordo più niente di questo gioco, perché mi ricordo che allora mi ero informato tantissimo, mi piaceva tantissimo, però so che è tipo tatuato da qualche parte, prima o poi io so che questo atto di fede sarà ricompensato con l'amore. Quindi ecco, insomma, tu guardi, se guardi il trailer, secondo me te lo ricordi. Perché lo vedemmo insieme molti anni. Sì, era spettacolare quel trailer, veramente spettacolare. Non so dove guardarlo. Tra l'altro, sviluppato da gente con i controattributi, perché non so se quel video c'è ancora, su YouTube gli sviluppatori facevano vedere un tipo che stava giocando e loro che modificavano i parametri del gioco con l'editor in tempo reale, il gioco cambiava insieme alle modifiche che facevano loro. E quello dice, ah, stronzo, sto a giocare pezzo di merda. La reazione era tipo quella. Io c'ero ancora nella lista, come atto di fede, nella lista dei desideri di Steam, tutte queste speranze, anche perché l'account del capo sviluppatore, l'unico canale social che avevano era l'account Twitter di sto tizio, diciamo che è muto da parecchio tempo, quindi o sta lavorando tantissimo o è scappato. Sì, no, ma il gioco non se ne è più sentito parlare, però ultimamente avevo visto un paio di video, qualcuno che ne ha parlato, e l'ho visto comunque almeno in due liste dei giochi del 2024, quindi dai, è un atto di fede, ce lo teniamo qui, come sempre, come Beyond Good and Evil 2, insomma, alla fine, cioè, sta lì e tu sai che un giorno non uscirà. Insieme ad Half-Life 3, ovviamente. Half-Life, no, però questo, cioè, ragazzi, cioè, io quando ho visto il trailer sono rimasto, cioè, questo gioco lo voglio cazzo giocare, proprio così ho detto, eh. Cioè, era tipo, c'avevo 13 anni mentre lo dicevo. però dai, cioè, io, è un atto, veramente un atto di fede, insomma. E Pucchio, il terzo? Ah, giusto, Hyper Light Breaker. Lo so, sei con noi allora, stasera? Sì, ci sono. Okay. Su Last Night dice: voglia, tantissimo. Okay. Dicevo, io sono grande fan dal giorno in cui l'hanno fatto vedere, poi non pensavo più niente. Allora, torniamo a noi. Tanti anni fa è uscito un bellissimo gioco con grafica pixel art 16-bit che si chiamava Hyper Light Drifter. fu un mezzo caso all'epoca, perché ne parlavano tutti benissimo, ed effettivamente è un signor gioco, è un gioco un po' alla Zelda, diciamo, come tipologia, con una narrazione non lineare e del tutto ambientale, perché il protagonista e le persone che incontri e le creature che incontri parlano una lingua che tu non puoi comprendere, scritta completamente in ideogrammi del tutto inventati. Mi hanno fatto felice gli sviluppatori dell'Art Machine e hanno annunciato il seguito, che però questa volta sarà un gioco 3D, per quanto con un tipo di grafica quasi low poly. Sembra molto carino, sempre un gioco alla Zelda, però con questo, diciamo, questo tono un po' più dark, un po' più adulto. Beh, sembra anche un po' più frenetico di Zelda. Come combattimenti, dico. Dipende dalle fasi in cui stai, tipo gli ultimi due Zelda, quanto a combattimenti, insomma, se la battono, anche okay. Perché spesso sei tu contro gruppi, okay. Quindi non è... Vabbè, come capirai, io non ho mai giocato in Zelda in vita mia, quindi... Cioè. Questa è l'altra cosa che dovresti fare insieme a Metroid e a Symphony of the Night, per cui concordo proprio al 100% con Umberto. Sembra un gioco promettente, il rischio che mi ammazzi la fantasia, perché non all'altezza del primo è alta, ma ce voglio credere, e quindi ce l'ho lì, tra l'altro anche nella lista di Steam, e aspetto che venga rilasciato, pare entro i prossimi due mesi. Ok, c'ho una domanda, perché tu dici che tutti parlano una lingua che tu non puoi capire, come quando io sono venuto in Puglia da te, in pratica, cioè... Sì, più o meno, ma lì c'ero io che ti facevo da interprete. Ah, è vero. Io vorrei ricordare che Simone ha conosciuto dei personaggi caratteristici del mio paese. Esatto. Io in 45 anni non avevo mai incontrato, esatto. Però lui in due giorni è riuscito a beccare. Esatto, soprattutto il barbiere con la barba gigantesca che mi faceva Roma! Babbo Natale. Cioè. Sì, Babbo Natale. Vabbè, comunque non ci distraiamo. Umberto, tu lo conoscevi questo? Umberto, please, where is Umberto? Dicevo, stavo parlando in muto perché avevo tossito. Ah, ok. E sembra interessante, no, non lo conoscevo. Non questo sembra figo, pure come gioco, pure come stile, devo dire la verità. Sì. Su Steam. Su Steam è dichiarato in uscita, in accesso anticipato. No, è già in accesso, no. No, non è ancora. Però uscirà in accesso anticipato. In arrivo. Ieri. In arrivo. Mi sembra che quando stai sotto la metropolitana dei termini, in arrivo. Che non sanno più neanche quantificare il ritardo. Esatto. Tu guardi questo, l'hai conosciuto? No? No. Ok. E Deborah? Il primo sì, lo conosco, presente insomma l'immagine della locandina, il tipo di grafica e tutto quanto, però non l'ho mai giocato, forse ce l'ho anche, però non l'ho mai giocato. C'è anche l'italiano, so se serve a qualcosa, insomma. Tanto tanto se parlano una lingua che nessuno capisce, se parlano il pugliese è inutile, insomma, mettere l'italiano. vabbè, dai, comunque aspetta, che Nico non ha capito l'ultimo gioco, come si chiama di preciso? Allora, il gioco si chiama vai, se vuoi glielo incollo. No, okay. lo faccio io, vai tu, tanto dillo. Hyper Light Breaker, eccolo qua, l'ho messo nella chat, ragazzi, così almeno ve lo ritrovate. Io da qualche parte il primo ce l'ho, comunque. Hyper Light Breaker. Su Amazon Game o è su Epic? Può essere, sì. Sì, mi sa che forse è su Amazon. Ok, arriviamo al quarto video games di Debra. Ah, questo l'avevo. Allora. Questo l'avevo puntato pure io. Questo dovrebbe essere Gagliardo, speriamo. Allora, è Avowed, non so come si dice, che uscirà in teoria verso fine 2024, da quello che avevo letto, intorno a ottobre più o meno. Xbox, sempre su Game Pass. Esatto. Sarà in inglese anche questo qui. Ed è un gioco di ruolo fantasy in prima persona ed è stato definito lo Skyrim di Obsidian. Praticamente ambientato nel mondo di Evora, e noi siamo un emissario che indaga su una malattia che si sta diffondendo nella zona. Quindi questo è il decay della storia. Giocabilità, ripeto, a vedere almeno dal trailer sembra molto molto Skyrim, quindi io che adoro Skyrim, è uno dei miei giochi preferiti in assoluto, no, lo tengo d'occhio e sicuramente appena uscirà su Game Pass lo proverò, perché se è come Skyrim o comunque abbastanza simili, sicuramente mi ci chiudo. Quindi non vedo l'ora di provarlo. Graficamente mi piace, ho sentito persone che si lamentavano della grafica, ma a me onestamente piace e mi ha dato una buona impressione, tanto se visto da poco poi qualcosa di più adesso che c'è stato l'evento Xbox, quindi spero insomma no, che non mi deluderà, però lo tengo d'occhio sicuramente. Beh, innanzitutto le lingue ancora presto, secondo me vedrai che poi verranno dichiarate altre lingue, perché qui comunque su Steam da soltanto l'inglese, quindi neanche le altre lingue secondo me non sono state proprio dichiarate le lingue, quindi su questo poi vedremo fra qualche mese quando cominceranno a uscire maggiori dettagli. Poi è Obsidian, che è insomma diciamo un marchio di garanzia dal punto di vista ruolistico, perché loro sono gli iper nerd del gioco del ruolo. Dall'altra, diciamo, l'aspetto tecnico hanno sempre, che è una garanzia sempre, pure quella, sono sempre stati un po' più carenti, perché d'altronde non so un grande, un team insomma grosso, però Obsidian significa gioco di ruolo, questo è sicuro. Oddio, mi sono lapsusato un secondo, ma Obsidian non se l'ha accaparrata Xbox, Microsoft? Potrebbe essere, sì, potrebbe anche essere, perché magari tra i team minori. Puccio. Potrebbe anche essere. Puccio. Ci sei? Non mi ricordo, lo sai. Sai, ma questa cosa che tu hai detto non mi è ignota, però non perché ti posso... mi ricordo qualcosa, ma siccome che confondo magari con Bethesda, non vorrei di cazzate, no, però mi ricordo che Obsidian pure c'era qualche cosa in tempi non, prima ancora di Bethesda. Forse è più Bethesda che si è comprato Obsidian. Vabbè, comunque no, sti cazzi, no. Comunque vabbè, non ci frega niente. Una cosa che se fosse già passato magari sotto Microsoft, magari un 2-3 programmatori capaci in più gliel'avranno dati, che ne no, so. No, ma che gli frega? No, quello no. Loro danno... Voglio i bug. Sta dicendo in chat che ora è di Microsoft. Ah, ok, vedi, ok. Perché loro ci tengono ai bug, ci devono stare, se no. Ma guarda che c'erano più bug nei giochi Bethesda che in quelli di Obsidian. Sì. Mi dirai che Obsidian non aveva mai un comparto tecnico anche importante, perché cioè, i motori di gioco erano quelli. E poi ricordiamoci che Obsidian è quello che ha fatto Last Vegas, Fallout New Vegas, Last Vegas. Last Vegas. Guardi, ma io mo te caccio, cioè, ma che... Comunque, giusto per dire, ce l'avevo e ci avevo anche giocato 30 minuti al primo di quello. Chi addirittura 30 minuti, 30 minuti 30 minuti solo 30 vedrai ragazzi, ecco. Io ho installato per Skyrim una serie di mod facendo un po' di ricerche, sì. È diventato un gioco spaventoso, sì, se la gioca con i giochi moderni veramente è diventato di 170 giga, sì sì. Però raga, Skyrim con le mod è una cosa impressionante. È allucinante. Veramente. Sì, sì, è vero. Vabbè, ma questo pure con, no, con Fallout un po' di meno, però diciamo che sempre su Nexus, no? Stanno sì, Nexus. Sì, stante là. Sì. No, ho visto delle cose fuori. Io allora ho installato, c'è quello là gigante, ma mi è diventato di 400 giga il gioco. Ho detto, vabbè, mo mi installo io un po' di roba. Ho fatto una ricerca, io ci ho messo pure le tette, le nudità, sti fatti qua per fare un bel porco così. Vabbè, sembra che è giusto, ma perché devono avere le mutande questi? Allora, io su questo sono d'accordo. Io quando per esempio, cioè su Skyrim, a me faceva ridere questa cosa, ma anche Fallout stessa cosa. Su Fallout ci poteva anche avere un senso che la gente c'ha le mutande, ma in un mondo medievale quando tu li spogliavi tutti e improvvisamente imparivano queste mutande, cioè vabbè, comunque al di là di questo che è una comunque Avowed. Tu Gualdi sei attratto? Beh, a te questi ti piacciono, questi ti piacciono. Prima ho capito, persona, però tu a Skyrim ci hai giocato mille anni, cioè Skyrim. Sì, però switchavo prima terza persona, qui terza persona. Ah, vabbè, prima non lo sappiamo, singolare, cioè prima persona soltanto. Che ne sai? Non lo sappiamo. Lo sappiamo, vediamo, no? Ancora è presto per sapere, perché qui hanno fatto vedere solo poca roba, per ora. No, ma Debbie ci ha detto che prima persona dovrebbe essere in prima persona, cioè, dal trailer sembra in prima persona, l'ho letto, sì. Anche dovrebbe essere in prima persona. Io comunque Skyrim l'ho giocato sempre unicamente in prima persona, in terza persona quello non ci riuscivo proprio. Beh sì, diciamo che è più, cioè è nato, io è alternato, perché no, quando stai in ambienti molto chiusi che devi prendere le monetine, sai, perché io cerco le monetine pure, no? Quindi devi andare per forza. Ma io pure raccatto tutto il raccattabile, esatto, assolutamente. Esatto. Questo lo dicevi pure su Fallout 3, però io devo dire questa cosa della terza persona non l'ho mai apprezzata, devo dire. Quindi, Sì. ma cioè, anche perché è dozzinale la terza persona. Sì, e si vede che la cosa è accroccata in più e basta, cioè non è che è funzionale, cioè non è che è stata sviluppata per essere così, insomma. Comunque, però devo dire che dozzinale ho trovato anche il trailer, l'ho trovato anche un po' questo Avowed, trovato un po' dozzinale, cioè l'ho guardato e mi è sembrato un gioco, boh, non lo so, un'ambientazione che... Obsidian. Non particolarmente ispirata, dici. Sì, non lo so, non mi ha colpito. Ti ho detto, dal punto di vista tecnico, però secondo me il gioco promette, se ne parla molto bene di questo gioco, quindi anch'io sono molto interessato e l'ho wishato, poi ovviamente... lo prenderemo. Salve, salutiamo Mercedes che è venuta a fare le pulizie. Siamo ancora qui, non abbiamo ancora finito. Può tornare, scusi, tra un po'. Fa il turno serale, giustamente. Deve mangiare il cane. Bravo. Chi deve mangiare il cane? Ragazzi, vabbè. Datemi un attimo. Io vi devo abbandonare, che ho una chiamata in reperibilità. Vabbè. Allora lo dico io il prossimo gioco del Puccio. Grazie Puccio, grazie di essere stato con noi. Buona fortuna. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Vai Marco col tuo quarto. Allora, quanti ne facciamo? 4 o 5? Domanda. Per ora 4, poi vediamo alla fine del giro, vediamo che ore so. Poi... No, perché sennò dico tutti e due, tanto sono una cosa velocissima. Ah, sì, vabbè, è giusto, anche questo. Allora, vabbè, questi sì, sono abbastanza. Sono due iconici, però sì, sono con i punti interrogativi nella, sì, nel nostro li avrei resto. Messi perché? Perché sono tecnicamente in uscita quest'anno e sono, appunto, aspetta che me lo devo leggere, perché quello di Star Wars non mi ricordo bene il titolo. Outlaws e basta? Sì, Star Wars Outlaws. Che grande, bello trailer, bello. Bella roba, uscita 2024, ma io tanto sono sicuro al 100% che andrà fino al 2025. C'ho come questo sentore, capito? E poi c'è un altro gioco che teoricamente dovrebbe uscire quest'anno, sempre sì, 2024. In realtà doveva uscire 2 anni fa, però. Esatto, però noi siamo sempre ottimisti, quindi per noi esce quest'anno. Un atto di fede. E sì, ed è The Wolf Among Us, parte seconda, quindi 2. Ah sì, davvero. Quello è il mio atto di fede. L'ottimismo, dai. No, beh, diciamo che adesso abbiamo dei motivi. Il fatto che è stato riaperto lo studio, anche se poi è più un publisher, perché poi fa in collaborazione con Dotnote, con Deck Nine, quindi insomma alla fine stanno a fare una sorta di consorzio col quale fanno tutti questi giochi. E sono praticamente sì, sono passati da Real Engine 5. Sì, tra l'altro. Io per esempio ho giocato a The Expanse e devo dire che hanno fatto un bel lavoro dal punto di vista pure tecnico, e poi a parte che il gioco a me è piaciuto tanto. Però sì, anch'io l'aspetto sia Star Wars che The Wolf Among Us 2, sono abbastanza convinto che uscirà nel 2024, anche se, come giustamente dice Deborah, cioè nel senso ci hanno fatto aspettare tanto, e non solo, diciamo che nell'ultimo anno non se n'è proprio parlato, diciamo, insomma ogni tanto... Se voi andate sul canale YouTube di Telltale, ogni tanto fanno uscire dei video, si intervistano fra di loro. E allora questo, cioè, è un grande gioco che prende spunto dal primo, ma sarà molto più bello. Vabbè, ma quando esce? Così. Andata via la linea. Esatto. Funziona così. Perché usano Skype. È caduto il satellite. Vabbè, comunque dai. Però siamo ottimisti e speriamo, perché io voglio sapere se finalmente Bigby se bomba Biancaneve. Perché cioè, solo per quello, capito? Solo per quello. Io devo dire la verità, che il primo mi è piaciuto veramente tanto. Il primo è bello. Cioè, tra tutti i Telltale, che secondo me erano. Cioè, c'è stato un periodo in cui ne sono usciti di belli, ho fatto fatica a decidere quale era quello che mi piaceva di più. Questo era sicuramente quello più originale e con più carisma. Anche se secondo me The Walking Dead rimane su un altro livello da un certo punto di vista. Però questo anche stilisticamente era bello. Cioè, proprio questo stile proprio super fumettoso, questo noir colorato, cioè, mi è piaciuto veramente tanto. Cioè. Bello, bellissimo, secondo me. Bellissimo. E poi, niente, la gente muore. La bambina muore, tutti muoiono. Muoiono facilmente. Intanto lo dovrò rigiocare perché non mi ricordo quasi niente. Mi ricordo il finale che... Sì, andrebbe rigiocato. Che lasciava quel coso, ma che cosa ho appena capito? What the fuck? Capito? Oppure ti guardi un gameplay dell'ultimo episodio. No, cioè, io voglio proprio rigiocare tutto. Voglio rigiocare, sì, ma oggi non so se... Beh, cioè, andrebbe veloce sul computer. Sì, cioè, andava veloce pure su quello di prima, quindi... Cioè. Esatto, la roba del Telltale non è che ha mai faticato tanto. Ho visto delle immagini e devo dire che hanno fatto un bel lavoro, rimanendo sullo stesso stile, ma si vede una qualità tecnica mostruosamente superiore, ovviamente, cioè sarebbe ridicolo il contrario, insomma. Comunque li aspetto anch'io tutti e due, d'altronde se aspetto Indiana Jones aspetto pure Star Wars Outlaws. Io aspetto anche il seguito di Tales from the Borderlands, è uscito. È uscito, è uscito, è uscito, sì, non è Telltale, è uscito, sì, ma non è andato molto bene, non è andato molto bene, non ci sono i personaggi. No, io mi ero innamorata del protagonista. Non c'è Reese si chiama. New Tales from the Borderlands, sì. Quando è uscito? È uscito qualche mese, sei mesi fa, tipo. Sì. Sì, ma molto in sordina, devo dire, veramente molto in sordina. Sì. E poi non... è stato quello che mi è piaciuto di più a me della Telltale. Allora, come stile? Adorato. Come stile, sì. E devo dire, cioè, nel senso, cioè, era molto Tarantino, queste sigle, questi stacchi fatti in una certa maniera, a me mi è piaciuto da morire. Io ho detto, per me era un gioco, molti l'avevano sottovalutato all'inizio, ho detto guardate ragazzi, questo merita di essere guardato / giocato. Però insomma è uscito, sì, è uscito il 2, ma è un po' in sordina e non è che sembra che se lo siano cagati in tanti. Le recensioni sono pessime, mo. Non è andato bene. Non mi fido delle recensioni di Steam, però c'è da dire, nel senso che... Beh, se facessero come faceva Telltale, che il primo episodio è gratis, uno se lo guarderebbe un attimo, insomma, poi dopo deciderebbe per il resto. Comunque, Star Wars Outlaws e The Wolf Among Us, Deborah? Di Star Wars onestamente no, non seguo, non, cioè nel senso i film mi piacciono, i primi sei, poi gli altri non esistono. E i giochi, boh, non, onestamente non ho mai giocato ai giochi di Star Wars e ho giocato solo a Lego Star Wars. Mi sono divertita. Quindi sei persa KOTOR, ti sei persa? Com'è? Ti sei persa KOTOR? Knights of the Old Republic. Sì, non l'ho, quello lo conosco, ma non l'ho mai giocato in verità. E invece The Wolf Among Us 2, come dicevo, è il mio atto di fede, perché lo sto aspettando da tanto, però non lo so se uscirà, spero di sì, perché il primo mi è piaciuto tantissimo, come diceva Simone, secondo me è secondo solo alla prima serie di The Walking Dead, solo il primo. Yep, esatto. Bene, e Umberto? Prima, riguardo cosa? Prima sti due giochi e poi devi andare ai tuoi due giochi. Vabbè, sti due giochi, ho detto Wolf Among Us 2 lo aspetto tanto perché anche a me è piaciuto. Star Wars Outlaws non so neanche che cosa sia, a dire la verità. Non ho un'opinione in merito. Ok, quindi sti cazzi, fanculo, fanculo Outlaws. Vai, vai. A me in realtà ne rimane uno perché l'altro è Indiana Jones con te. E me ne rimane uno che è stata una scoperta dell'ultimo momento, che è stato presentato il nuovo gioco di South Park che deve uscire. Non so se voi avete giocato i primi due. Sì, assolutamente sì. Sì, sì. Che sono dei capolavori. Meravigliosi. Sembra che abbia la grafica in 3D tipica di alcune puntate di South Park. E insomma, sono... ho quasi avuto un'eiaculazione quando l'ho visto, perché mi sono divertito veramente, tra i giochi più divertenti che abbia giocato negli ultimi 15 anni, sinceramente. Sì, sì, no, infatti erano forti, assolutamente. Io poi adoro South Park, quindi non so voi, io lo adoro. Il secondo era anche tutto doppiato in italiano, sembrava di giocare proprio ad una puntata, quindi speriamo in questo terzo che sembra figo, cioè ho visto il trailer, non so se voi avete avuto modo di vederlo, sembra molto molto... No, non l'ho visto, ma dopo me lo vado a vedere, sì. È tutto, e con la grafica, vedete se in alcune puntate ci sono quelle scene in 3D, no? Giocano con le carte, sta Cartman di nuovo vestito da mago, insomma... Sembra bello. L'ambientazione, perché il primo era giochi di ruolo fantasy, il secondo gioco di ruolo di fantascienza, di supereroi, questo? E non l'ho capito, sembra un mix. Sembra più quello fantasy, comunque, sembra un seguito del primo, del bastone della Stick verità. Of Truth. Vedremo. Esattamente. Allora, che pure erano di Obsidian, non sbaglio, quelli pure erano di Obsidian. Sì. Vabbè, ma infatti ho detto Obsidian, quando si tratta di creatività e del gioco di ruolo sono maestri. Dal punto di vista tecnico, purtroppo poi hanno risorse che hanno, insomma. Però su South Park funzionava, che è un cazzo di gioco. Che? New Vegas, pure Obsidian. Vegas. New Vegas estendeva Fallout con meccaniche RPG importanti. Meraviglioso. Ma a me mi era piaciuto pure quell'altro gioco che avevano fatto, che era tipo un Fallout nello spazio. Come si chiamava? Uno spazio? Dai, cazzo, che era un'esclusiva proprio loro. Cioè, un gioco che hanno fatto loro. È sempre un po' un action RPG in prima persona. Che era spaziale. The Outworlds. Sì, qualcosa del genere. Out of this world. Non mi ricordo. The Outer World. Brava, ok. Quello a me è piaciuto pure quello. Mi sono proprio divertito a quel gioco. Cioè, a me la roba di Obsidian, devo dire la verità, in generale mi piace. Insomma, quindi. Va bene. Quindi vado io? Mm-hmm. Mi sa che so io, no? Giusto? Sì. Allora, tocca. Allora, cioè, la prima è praticamente, insomma, dagli autori di Life is Strange. Torna, insomma, un classico insomma, stile, ovviamente, gioco narrativo, cinematografico, / televisivo, Lost Records, Bloom and Rage. Che, diciamo, le tematiche sono sempre quelle, devo dire che purtroppo tra Life is Strange 1, 2 e 3 e anche giochi affini e spin-off, diciamo che le tematiche sono sempre quelle, sempre sti adolescenti, sempre sti anni 90, che va bene, per carità di Dio, però voi sapete, insomma, che io dopo un po', no, nel senso, però alla fine non mi lamento, sto zitto e li gioco. E so poco del gioco in generale, però ovviamente essendo lo stile mi è piaciuto molto, mi piace molto la fotografia, anche la qualità tecnica, e quindi lo giocherò e poi dirò: ammazza, oh, che bello, questa storia mi è piaciuta tantissimo, oppure e questo è un po' il mio modo di dire. Invece, con l'ultimo gioco ho scoperto una cosa. Prima del gioco che, insomma, mi attira, anche se devo ancora capire il motivo, ho scoperto che Quantic Dreams, da quando non c'è più i soldi di Sony, ha cambiato faccia, fondamentalmente. È diventata prevalentemente un publisher, anche se continua a sviluppare dei progetti interni. Ricordiamoci a quel gioco su Star Wars molto grosso, importante, che non si sa ancora. Anche quello, TBA. Beh, diciamo 2025-2026, diciamo così. E tra diversi giochi che sta sviluppando o, diciamo, producendo, ci sono diversi giochi che sono veri e propri videogiochi, tra i quali c'è questo Dustborne, che mi piace molto perché deve essere un action adventure cinematografico con ovviamente le parti action, quindi c'è tutta la parte, insomma, di gameplay un po' più evoluto rispetto a quelli che sono i giochi narrativi. Mi piace molto lo stile e mi piace proprio questa cosa un po' surreale, perché sono questi protagonisti che fanno queste missioni e però sono una rock band, sono dei straccioni, insomma, non si sa bene che so, ed è un'ambientazione futuristica. Mi piace anche qui lo stile visivo, mi piace proprio tanto, e quindi lo aspetto sto gioco, cioè, nel senso, tra tante cose che magari più AAA, più de grande impatto, devo dire che andando a esplorare tra la roba di Quantic Dream, perché volevo sapere quando sarebbe uscito poi il gioco di Star Wars, ho beccato sto gioco e devo dire che mi è piaciuto. Ho visto diversi approfondimenti, anzi no, non è che me ne sono visti tanti, però ho visto il trailer, ho visto e quindi lo aspetto. Questo è un gioco che aspetto, insomma, perché fatti i cazzi tua. Bene, guardi, aspettalo. Sto aspettando. Aspetta. Sto qui seduto, aspetto io. Ok. Che motivo? Lo conoscevate, ragazzi? No, ovviamente. No, perché... no. Immagino. Mentre che invece immagino che conoscevate almeno Deborah, Lost Records. Sì, quello di Dontnod, sì, infatti voglio giocarlo anch'io, quando l'hanno annunciato ho visto il trailer, dico, si vede che è Dontnod, perché come hai detto te, è pischellume, problemi e cose, e quello, vabbè, lo stile loro, si sa. Però l'ho giocato di tutti, giocherò sicuramente, sì, anche questo qui. Alla fine sono sempre gradevoli i loro giochi. Qualcuno mi è piaciuto di più, qualcuno di meno, però nell'insieme sono sempre giochi che mi piacciono, quindi sicuramente quello lo giocherò. Mentre quello, il secondo che hai detto te, non lo conoscevo. Ok, e mi stanno proprio sui coglioni. proprio sul cazzo, cioè, capito? Andate a fare il culo, maledetti. No, mi stanno antipatici, cioè, vedo le loro, capito? Andate a vedere le fa, mi stanno, cioè, non lo so, mi stimolano antipatia. Sarà solo che sono ipsterissimi, mi danno fastidio, non lo so. Guarda, molto velocemente, tra l'altro aggiungo solo sta cosa che tra i giochi di Puccio, che lui aveva messo Octopath 2, che io devo dire no. Cioè, nel senso che io il primo l'avevo comprato, l'avevo iniziato a giocare su PlayStation, perché mi piaceva questa misto tra 8 bit e Unreal Engine, cioè nel senso in 3D con la profondità. Sì. Era carino come stile. E ho iniziato... Esteticamente è bello. È l'unica cosa, però. Però, ma anche la storia, devo dire, che poi questo cosa che ogni... Tu partivi da un personaggio e c'era tutto un suo background, non era male. Però, raga, io penso che oggi... E questa è una mia idea, poi, per carità. Cioè, oggi un gioco JRPG con gli scontri casuali è una cosa impresentabile. Mi dispiace, ma... Cioè, questa... non impresentabile, per me è inaccettabile proprio, cioè è una cosa che, cioè, ridatemi i soldi. Ma cioè, non è manco lo scontro casuale, è che il gioco era di una noia mortale, cioè io l'ho comprato quasi al lancio e non l'ho finito, mi sono rotto il cazzo. No, pure io mi sono rotto le palle, però mi sono rotto le palle piuttosto proprio per questa cosa degli scontri casuali, che tu stai lì per cambiare schermata, cioè a volte diventa veramente una cosa tediosa, raga. Cioè tediosa. Io lo accettavo negli anni 90 sta cosa, perché ma era una necessità, perché non potevi mettere tutti quegli sprite a schermo in fondamentale, capito? Metteme un quadrato, dici, se vai qui c'è il nemico, vai qui. C'era qualche gioco che c'era, qualche JRPG che ce li aveva anche in tempi non sospetti, certo. Chrono Trigger per esempio, cioè. Sì, certo, però Chrono Trigger già è più avanti, hai capito? C'era qualche gioco anche prima, c'era Final Fantasy Quest, per esempio, che ce l'aveva, cioè, giapponese l'aveva capito che forse era meglio che ce li metteva. In effetti mi aveva stregato il primo Octopath Traveler con la grafica, capito? Perché effettivamente c'era questa commistione di profondità di campo unita alla pixel art, in quel modo là era bello. Gli dava un qualcosa di teatrale quasi poi alla fine, che poi era il motivo per cui, e devo dire, a me, però, quando tu stai a fare, cioè io a un certo punto, cioè io poi, nel senso, non essendo più non avendoci più tutto il tempo che uno voleva quando era ragazzino, no, per dirti, e tu stai lì e devi aspettare di arrivare a sto cazzo dei save point, perché se no devi spegni e butti tutto quello che hai fatto fino a quel momento, e ogni 3 secondi tra combattimento, tra devo andare a salvare, devo uscire, devo andare via, c'ho da fare, devo andare a lavorare, vaffanculo gioco, cioè è una cosa veramente insopportabile, scusatemi, però è un mio sfogo personale, è una mia battaglia proprio. Hai ragione, ma secondo, se mi senti a me, il secondo sarà la stessa cosa. Lo so, perché ho giocato la demo e ho visto che tanto alla fine non, anzi, devo dire che lo stile è talmente identico, a parte l'ambientazione, che non avranno i miei soldi, insomma, questo. Poi non so che ne pensa Deborah e Marco, però insomma. 8D. Allora io lo aspetta, inizio. Tu vai tu. Vai. Vado io. Io il primo l'ho giocato tutto e mi è piaciuto veramente tanto, al di fuori dello stile mi sono piaciuti tutti i personaggi, mi è piaciuto fare la storia di ogni personaggio, a me gli incontri casuali non danno problema, quindi non mi dà noia, diciamo, e quindi l'ho trovato veramente un gran gioco di ruolo, e in teoria il secondo è già uscito però. Ah sì? Sì. Mi sembra proprio di sì. Puccio, Puccio. Puccio, Stifella lo sta veramente castrando. Ma l'ho visto che non sta in è forma. Provato, è provato, è molto provato. Quando è uscito? È uscito, vero. E vabbè. Quando è uscito? 24 febbraio, ieri. No, febbraio deve arrivare. No, del 2023 però. È 2023, cioè. Sì, è già uscito. È un problema, allora. Tutto a posto, Puccio. È proprio, non l'aveva perso completamente. A meno che non c'è da un annetto. A meno che, attenzione, la verità, però... colpo di scena, magari ce n'è un altro che non conosciamo. Beh, in effetti lui ha scritto Octopath 2, non è che ha scritto infatti noi diamo per scontato Octopath Travelers, esatto. Però immagino che sia. Fammi scrivere Octopath 2 solo. Nel frattempo poi ha aggiunto anche Grand Blue Fantasy Relink, che non avevo la più pallida idea di cosa sia, quindi. Tra l'altro il nostro nuovo amico Nico, Marco Gualdi ti rievocherà sicuramente, parlando di Obsidian, Alpha Protocol. Alpha Protocol, grande gioco. Che era il Mass Effect dei poveri con, esatto, l'ambientazione spionistica. Perché il gioco, cioè, secondo me l'engine era quello, solo fatto col culo. Cioè, posso dire che era fatto proprio col culo il gioco. L'engine culo era. Era proprio brutto, dai, era fatto proprio brutto. Però era figa la storia, dai, molto, molto. Tra l'altro, diciamo, pubblicato da Sega, che non aveva la licenza, ma in teoria quello doveva essere uno 0607, quindi 0607, sì. 06, chi chiama la Roma? 060606. Doveva essere uno 007. Cioè, sì, aveva tante potenzialità, però, cioè, era anche un po' buggato, diciamo. No, era brutto, bug. Era brutto e buggato. Eh sì, ma brutto era. Umberto, l'hai trovato? 8.2. No, dice no, non esiste. E allora niente, Buccio, cioè, niente, Buccio sta aspettando, cioè, pensa a lui che sta ancora aspettando un gioco uscito da un anno e aspetterà per un sempre. Gioco bello, uscito, sì, perché, da un anno, perché non gli arriva la notifica, quindi lui non si accorgerà mai. Esatto, cioè, lui vede la pagina ogni giorno che si domanda, ma chissà come sarà, sai, perché non mi arrivano più notifiche di questo gioco. Sarà un vaporware, eh sì, esatto. L'hanno ritirato dal mercato nel frattempo, non lo so. Vabbè, io direi che l'abbiamo fatti, no? Tutti quanti i giochi. Mi manca il mio, il l'ultimo, il quinto, il mio bonus. Vai. Vado, allora, praticamente il 13 di febbraio, sempre si spera, uscirà l'ultimo gioco dei Dontnod, ossia Banishers Ghosts of New Eden, che è un po' diverso dal solito pischellume a cui siamo abituati, quindi è un po' più particolare. Doppiato in inglese, il testo però sarà in italiano. È un gioco di ruolo d'azione con le scelte, quindi le scelte comunque ci sono. Sono sempre scelte morali, sempre scelte che cambieranno la storia. Però c'è l'azione, quindi il combattimento. Ah, anche basta, bello questo. Ah, sì, sì, l'avevo seguito. È vero. Pure io ce l'ho. Ma sullo stile di quello con i vampiri. Allora, diciamo che il combattimento, sì, forse ricorda un po' quello, però mi sembra ancora più action in verità di Vampyr. Vampyr a me è piaciuto molto comunque come gioco. Però questo mi dà più idea di gioco d'azione. Se vedi l'ultimo trailer che era stato pubblicato, si vedono i combattimenti vari. Comunque, praticamente parla, ambientato a fine 600, di Antea Duarte. Io mi li sono scritti i nomi perché non mi ricordo. Antea Duarte e Rosso McRaith, che sono una coppia di epuratori, ossia cacciatori di fantasmi, che hanno giurato di proteggere i vivi dalla minaccia degli spettri. In una missione, praticamente, la ragazza viene ferita e diventa uno spettro lei stessa, e la coppia cerca di liberarla dalla pena che l'affligge. E questo è quanto, insomma. Quindi sembra molto interessante anche dal punto di vista grafico. Secondo me hanno fatto un passo grandissimo in avanti. Ok, esce il 13 febbraio del 2024, prezzo 49,99. Me coglioni, devo dire la verità. Ma ricordiamoci sempre che c'è King Win, insomma, anche se poi i giochi usciti difficile da poco. Insomma, devo dire che là, sì, loro hanno iniziato con Vampyr. Anzi, loro, ti ricordi il primo fatto gioco? Pure quell'altro quello gioco sulla memoria. Esatto, Remember Me. Sì, quello ambientato nella Parigi, cioè, cyberpunk. Fighissimo. No, ma pure il gioco non era malaccio. Poi sono dati ai giochi narrativi. Poi hanno fatto Vampyr, poi hanno fatto questo. E nel frattempo hanno fatto pure quell'altro, quella specie di graphic novel, no, visual novel. Ma hanno fatto anche Usant, quello lì che si arrampica sulle montagne, che è uscito su Game Pass. Ah, poco tempo fa. Ah, sì, vabbè, ma quello mi sembra una palla incredibile, ce la posso dire. Anche secondo me, però ne sto sentendo parlare bene, anche sul gruppo ne hanno parlato bene. Non è bello il gioco. Però io ho detto, madonna, ma vi siete annoiati a arrampicarvi tutto il tempo? No, quindi. Mi sono venuti i galli. Cioè, ma qual è lo scopo? Cioè, ti arrampichi e poi per sempre? O c'è un... Diciamo, ti arrampichi tutto il tempo, però c'è anche una storia, però non ho capito bene il di che, però ne hanno parlato tutti bene, quindi dico, boh, vabbè, sta su Game Pass, magari proverò anche quello. Va bene ragazzi, io direi che è stata carina la serata. Facciamo una menzione d'onore? Cioè? Una menzione d'onore di una mod che esce quest'anno, e cioè Fallout London. Ah sì, è vero. Che secondo me vale la pena provarla. Beh, allora facciamo una menzione d'onore anche off topic, che aprile arriva. Aprile arriva, siamo già tutti pronti, seduti sul divano, perché esce la serie televisiva di Fallout. Perché io ho hype a 10.000, perché per me, da quello che ho potuto vedere dai trailer, è veramente, forse, mo, al di là di quello che sarà narrativamente, potrebbe essere deludente o potrebbe essere bello, però è forse la serie televisiva estratta da un videogioco che maggiormente riesce a prendere proprio l'atmosfera, lo stile, anche dal punto di vista visivo, che dal videogioco. Anche se il tipo di correzione del colore ricorda molto, insomma, proprio il Fallout 4. Insomma, chissà che tipo di ambientazione. Io sono veramente molto molto molto curioso di... Ma non andava a uscire nel 2025? No, esce mo. Okay, hanno fatto già il trailer pure in italiano, quindi figurate. E ovviamente i produttori sono gli stessi di Westworld, e c'è Jonathan Nolan, esatto, come produttore. In cui Westworld c'erano delle chiarissime riferimenti a Fallout. Riferimenti a Fallout e 4. Noi lo dicevamo in tempi non sospetti, questa cosa, se tu ti ricordi. Eh sì. Lo dicevamo in tempi non sospetti tanti anni fa nei vostri podcast, quindi ovviamente potete trovare le testimonianze. Detto questo, io domani mattina ho live alle 7, e quindi, ragazzi, con tutto il grande amore con il quale, ovviamente, sapete, insomma, che rivolgo verso di voi, direi che sarebbe ora di salutarci. Quindi io ringrazio e saluto. Solo un secondo. Nico vi chiede se Space Marine 2, che esce a settembre, lo conoscete? Warhammer? No, Space Marine 2 proprio no. No. Umberto? No. Vedi? Nico, guarda, fai una cosa. Non farci domande come se noi fossimo esperti, noi non capiamo un cazzo. Io non so se è una delle varie. Aspetta, lo vado a vedere. 40.000, lo vado a vedere. Lo vado a vedere. Sembra di sì, dal nome sì. Io, ragazzi, ho una minzione d'onore, devo andare a pisciare. Un po' tutti, credo. Vabbè, allora ringrazio Umberto Parisi, così almeno sei il primo che esci. Grazie mille, buonanotte. Ciao, e ricordiamo ovviamente invece i video ludici e i giochi di Psycho Dev, lo cercate su Steam e trovate i giochi, insomma, che fosse la cosa più facile. Grazie Umberto. Grazie a voi, ragazzi. Ciao ciao, e ringrazio, saluto anche ovviamente Pixel Deb, Deborah, con il suo canale su YouTube, Pixel Deb appunto, cercatelo su YouTube, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere le notifiche, ma soprattutto guardatevi i video, condivideteli, mettete tutti i like e anche i commentini, perché i commentini aiutano a indicizzare ovviamente il canale. Ciao Deborah. Grazie mille di avermi invitata, come sempre divertente, insomma, quindi ma grazie, sì, di cuore. Tanto lo sai che noi qua proprio, cioè, il cazzume è proprio così, è proprio messi lì. Cioè, parliamo di cose che ci piacciono, ma lo facciamo con la giusta, come se, senza dargli troppo, perché sennò c'è gente che la prende proprio sul serio, incredibile. Esatto, senza prenderci seriamente. Troppo sul serio. Ok, grazie anche a Marco Gualdi. Ciao, ragazzi, io mi prendo sul serio invece. Tu ti prendi sul serio, sì. E adesso io devo fare una cosa. Aspettate la menzione d'onore. Aspettate in linea, ci vediamo domani mattina alle 7 con il grande reset. Parleremo di un tema che già scatenato polemiche, quindi però state per buoni e non rompete le balle. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.